qualcuno su 23. Aspetta, Graziano. Chi è avanti? Attento Graziano, ci sei ascolto. Chi è avanti? Ciao qua. No, avevo le cuffie, stavo ascoltando la televisione, per quello che non capivo. Aspetta che mi sistemo un po' qua, ecco qua. Avanti fra, con la buonasera. Baracchino io. Baracchino, omologato, buco, non se ne parla più. Gli ho tolto tutto. Così, per fare spazio. Soprattutto per fare spazio nel tavolino, tanto tutte le volte mi toccava stare mezz'ora poi spolverando, invece ne ho conservati tutti. Almeno a pulire ne ho solo un baracchino e basta. Ah, beh certo, sei il posto lato, va bene. No, ma ne ho tolto tutto qui, perché so tutte le volte tutti questi fili, fidetti, eccetera, eccetera. Ui, mi sono staccato. Poi magari ne tolgo tutto di nuovo da capo, ho messo dentro degli scatoni e ho conservato tutto. Magari quando mi salta in mente di nuovo prendo e ripiazzo di nuovo tutto. No, non c'è nessuno. Tutto il giorno. Io la sera dalle 3:30 così, sino alle 8, sempre acceso, non entra nessuno. Ma pazienza, e cosa ci vuoi fare? Ogni tanto faccio una chiamata sia sul 10 e anche sul 23 qua, ma non c'è niente da fare, ormai tutti stancati si sono. Probabilmente sì. Io il tempo che ce l'ho, la sera ne ho tanto tempo, la mattina no magari, perché la mattina esco e faccio altre cose, ma la sera dove vado? Oh, io. Non ne vale la pena, specialmente in questo periodo, il tempo ancora non è buono. Forse è stato buono il tempo almeno, se non altro, beh, che fa la passeggiata verso il mare, eccetera, invece ancora le giornate sono così, per cui si sta bene a casa. Se consideriamo che siamo già alla fine di maggio, praticamente, in questo periodo mi ricordo quando ero ragazzo, in marzo andavo al mare a fare il bagno, perché era già bello il tempo. Adesso è tutto cambiato, il clima è tutto diverso da come era prima, da quando ero ragazzo io, per cui vabbè, cosa ci vuoi fare? Non possiamo farcire niente. Sì, infatti, ma io mi ricordo tempo fa, sarà un anno e mezzo fa, una cosa del genere, avevo sentito uno scienziato parlando alla televisione, dice in realtà le stagioni non esistono, le stagioni sono un'invenzione della gente, dice, che ha stabilito che quando è estate, quando è autunno, quando è primavera, quando è inverno. Però in realtà dice le stagioni non esistono, perché la Terra come gira, dice, bisogna vedere in quale posizione si trova, e a seconda della posizione naturalmente c'è il tempo, tutte queste cose qua. È uno scienziato, stava, l'ha detto lui e ci posso anche credere, perché è uno di quelli che studia queste cose qua, l'atmosfera eccetera, capito? Niente di particolare, la mattina 4 passi sto facendo. Vabbè, sto facendo ancora qualcosina oggi, magazzino ancora da fare, ma ormai praticamente ho finito. Quello che dovevo fare l'ho già fatto, si può dire. Adesso vediamo questa settimana, vabbè, sino a mercoledì posso fare ancora qualcosa, poi da mercoledì in poi. Non ho il tempo. Devo andare a fare la cura, insomma, ecco. Finalmente hai raggiunto la pensione. vabbè, meglio così, io fra, dopo tanti anni di lavoro già è bello stare in pensione, così almeno uno si gode gli anni che rimangono da vivere, almeno si spera sempre che sia così. Poi sia fatta la volontà di Gesù Cristo, cosa vuoi che ti dica? in effetti, se si tratta di perdere appena 100 euro per dire al mese, ha fatto bene a fare lo scivolo, perché intanto non è che risolvi i problemi se hai per dire 100 euro in più. Oh, dai, va bene lo stesso, dai, e dopo tanti anni, fra che aspetta, quanti anni hai lavorato? 40 anni e oltre, figuriamoci, perciò, dai tempo, dai, dai tempo, ui. E vabbè così, vabbè io ho diverso il discorso perché lavoravo in proprio, io in tutto ho lavorato 62 anni, anzi devo dire che sto sempre continuando a lavorare perché quando vado in magazzino, in bottega, anche se sto preparando una cosa così che per mia figlia anche quello si può considerare un lavoro, però diciamo che attività vere proprio ne ho fatto 62 anni in tutto, ti puoi immaginare. Penso che basti, no? Hai fatto bene, fra, hai fatto bene, così almeno pure. A giorno luce, ragazzi, bisogna anche prendere la palla al balzo quando capita così questa occasione qua. Hai fatto bene, non si sa mai. L'hai visto luce con tanta facilità, le imprese chiudono, ragazzi, e poi si ritrovano così fregati di operai. Invece in questo modo ti è capitata l'occasione, hai usufruito dello scivolo e va bene così. Non hai perso niente, anzi hai guadagnato almeno in salute e opera. E infatti è quello che intendevo dire in quanto hai detto, hai fatto bene, proprio per quei motivi lì, perché se sa l'azienda oggi ci mette poco a fare passamano e allora chi subentra poi e poi ha altre idee, altri sistemi e gli operai, anzi alle volte licenziano e magari assumono anche altri e portarsi da fuori, secondo l'azienda che compra non si sa mai, no? Hai fatto bene, guarda, hai fatto benissimo, ripeto, tanto quello che perdi non è così importante la cifra che perdi, vabbè, se hai avuto qualcosina in più, ma è proprio qualcosina, non è tanta la differenza, per cui hai fatto benissimo, guarda, ripeto, e poi 3 anni in più almeno di pensione e sei a posto, perché prima avresti dovuto lavorare ancora 3 anni, ma chi te lo fa fare? Dai, vai, vai, vai, lascia perdere, alle volte l'egoismo di avere che so io qualcosina in più i soldi e ce li metti in salute, invece dai, hai fatto benissimo, tranquillo, fra, hai fatto molto molto bene. Ah, cosa vuoi che sia quando uno perde la quattordicesima, non ha perso niente, che se non te ne rendi conto che la libertà non ci vuole di pagarla, guarda, perché uno quando la mattina ne ha voglia di alzarsi presto, si alza presto, quando vuole rimanere a letto un'ora in più, 2 ore in più, lo può fare, e poi con Santa Cama va, si alza, si prepara, si fa la luce, si veste e si fa la passeggiata, e non solo con gli amici, ma anche con la famiglia, proprio, insomma è tutto un altro discorso, tanta soddisfazione, perché quando sei in pensione dedichi di più tempo alla famiglia ed è quello che è molto molto ma molto importante per la persona stessa, per cui è meglio, hai fatto bene. E vabbè, vuol dire quello non si è saputo fare bene i conti, o lasciamolo fare, meglio per lui. Ho capito, lui sta occupando una posizione così di poco sacrificio, diciamo, dai, e allora per quello forse che è rimasto, dice che me la può fare, tanto dice continuo così, il lavoro non è così pesante, eccetera eccetera, sarà per quello, può darsi anche, e chi lo sa, boh, vabbè, comunque ognuno sa di sé, per cui io secondo me l'avrei fatto, io nella stessa situazione sua l'avrei fatto ugualmente, ma chi me la fa fare? Per puttana di pochi spiccioli avrei continuato a soffrire da 3 anni, ma nemmeno per idea, figurati. E allora è per quello, è proprio per quello. Lui si è reso conto che il lavoro non è così tanto pesante e allora ha pensato di continuare, sicuramente è così. E vabbè. Oh, una grande comunità, arriva uno lì, devi prendere questo e quest'altro pezzo, dai, prenditelo, caspita, io guardo e tu prendi, beh, così è facile il lavoro, caspita, e chi è che non lo vorrebbe un lavoro così, un'occupazione così, per lui quello si tratta non di lavorare, ma solo di guardare praticamente, controllare, dai, vabbè, sempre di lavoro si tratta, però è un lavoro molto ma molto molto, diciamo così, non facile, ma magari di responsabilità, perché lui deve controllare quello che deve consegnare eccetera, però non è faticoso fisicamente, lui che sforzo fa? Niente. Ve lo posso immaginare, se entrano col camion, evidentemente sono dei magazzini molto grandi, per cui lo spazio c'è, insomma. Sì, tutte queste cose sono d'accordo. E vabbè, evidentemente lui ci sta bene, lasciamolo fare, poi se deve andare a controllare solo, io le auguro che continui sempre, che l'azienda continui sempre a lavorare, che non succeda niente, ma non solo per lui, anche per tutti gli altri operai che ci sono, tutti gli altri lavoratori, perché oggi non senti altro, quando accende la televisione non senti altro, questa azienda ha chiuso così, quest'altra voilà, e così via. 100 operai in cassa integrazione, altri guardate, altri 100 dall'altra parte e così via. E nel frattempo in Sardegna qui, l'altro giorno ho sentito la televisione, sono mancati già 8.000 aziende artigiane dal 2005, mi sembra che ha detto, a adesso, o dal 2008, non ricordo bene, comunque in pochi anni, 8.000 aziende hanno chiuso e mancano 40.000 posti di lavoro, questo solo in Sardegna, ti puoi immaginare? La cosa è critica veramente, tutti quanti adesso hanno questa mania di chiudere e di mettere così in strada gli operai, e che cosa vuoi che ti dico? Speriamo bene, speriamo che si risolvano con questo nuovo governo, speriamo che risolvano qualcosa, ma mi sa che non ne capiscono l'accidenti. Tutta gente fra che non si sa se riescono a avere la pensione un domani, perché ripeto, essendo così giovani, finché ci manca qualche anno, così uno bene o male può anche sperare che l'azienda continui a lavorare, la tiene aperta, la tiene, e gli operai continuano e si raggiunge il giorno della pensione, ma se sono tutti giovani, mamma mia, chissà che fine faranno. Io gli auguro tutto il bene in questo mondo a tutti questi lavoratori, per carità, che situazione che si è creata. Ma io mi ricordo quando ero ragazzo, capita, mi uscivi da una porta, entravi nella porta accanto e a chiedere lavoro ed era subito pronto. No, oggi, anni senza lavorare, senza fare niente. E intanto la vita va avanti così a forza di cassa integrazione, eccetera, eccetera. Non è possibile. Sì, prima era così, prima problemi di posto di lavoro non ce n'era, assolutamente, anzi, ce n'era anche troppo, tutto sommato, per i tempi che erano. Oggi invece, caspita, soprattutto se uno parla di famiglia, ma te ne rendi conto, uno si dispera, caspita, chi è debole alle volte fa delle cose assurde, tipo suicidarsi, eccetera, proprio perché magari l'uomo ha un animo debole e non riesce a sopportare la situazione, pensando magari alla famiglia, ai figli, eccetera, e allora fa delle cose estreme, cosa che non si dovrebbe mai fare, però per dire, no, la gente purtroppo oggi non è più sicura come una volta, nella maniera più assoluta. Boh, speriamo che cambi, però ne ho molti ma molti dubbi che possa cambiare tutta questa situazione. Anzi, sì, può cambiare, di male in peggio, però io spero che io stia sbagliando, ma mi sa che la situazione è questa. Sì, l'avevo letto sul giornale, l'avevo letto quella persona, sì, perché ripeto, una persona a seconda di come si trova, lo stato d'animo eccetera, fa delle cose che non deve mai fare, eppure le fa senza rendersene conto, o perché è disperato e non ragiona, ecco, perché è arrivato a quel punto, una persona evidentemente non ragiona. Perché sente la responsabilità della famiglia, magari se hai figli soprattutto, eccetera, come fai? No, non è facile, guarda, è una situazione che è molto ma molto preoccupante. Purtroppo succedono queste cose, ma qua una volta ogni tanto, ma è contento se ne sento tutti i giorni di queste cose qua. Per carità, non è possibile fra. Speriamo bene e che Dio ce la mandi buona. Infatti, oltre a farsi male lui, stava praticamente inconsapevolmente, perché ripeto, quando uno arriva a quella azione così estrema, non capisce più niente, non ragiona. E, e, praticamente stava facendo il male anche a chi non c'entrava proprio con lui. C'era gente che abitava lì in quel palazzo, eccetera. Molto, molto pericoloso alle volte una persona quando fa queste cose, purtroppo. Ma vediamo bene qua, cosa volete dica. E chi comanda se ne frega, ha visto la politica, si azzuffa senza pensare grazie agli italiani. Dico gli italiani a tutto il mondo, perché anche all'estero la situazione non è che migliori di qua. Noi non sappiamo certe cose, ma lì ne succedono peggio di qua. Ok. Sì, ci sono, sì, certo. Cos'è cambiato? Sì, l'ho cambiato per quello là. Però quando ho fatto il coso nel mezzo del carro, ho cambiato. Perché ho messo a posto là, il video. E c'ho il filo di la radio. E allora ho cambiato, adesso ho messo di nuovo l'acqua, però l'ho lasciato scaldare. Ok, sì, certo. No, quello grande io mi sono messo dentro un cassetto e ho fatto una prolunghetta, ho fatto ogni tanto, che è vicino al tavolino stesso, no? Apro il cassetto, tolgo fuori il filo e l'attacco all'alimentatore solo per farlo scaldare, ma non lo tolgo nemmeno dal cassetto, per cui rimane lì fermo, ma una volta ogni 3-4-5 giorni lo faccio questo. Dunque, almeno per farlo scaldare, ossia che ne venga la malattia che poi non accende più. E allora per non rischiare lo faccio scaldare ogni tanto, ogni 3-4-5 giorni. Però non lo uso. È dentro un cassetto, ben chiuso, eccetera, eccetera. Ho allungato un filo, un po' lungo qua, dai. E da lì l'ho fatto lungo, proprio per non togliere dal cassetto. Con questo filo attacco lo spinotto all'alimentatore, così quando accendo l'alimentatore si accende anche quello, perché quello rimane sempre acceso, nel senso che l'interruttore suo è sempre acceso, perciò l'ho fatto così, capito? Poi tutte le altre cosette le ho tutte messe dentro lo scatolone, e ce le ho portate su in massata. Uno grande l'ho lato, l'ho venduto, quello da 40, che quello lì non valeva la pena di mandarlo a giocare, perché gli uscivano i puntini, gli uscivano, e poi non funzionava. E allora l'ho venduto così, l'ho venduto, metà pezzo, e non so come era stato. Quindi qua dentro non è che abbiamo molta roba, e mi è arrivato questo qua. Questa è una nuova volta, perché è nuova, questa come radio, è bellissima. E se non le fate in tutte le parti, allora non lo fa. E adesso ci ho, avevo da vecchia 3-4 radio, cioè, in fili di questa radio, più basso, e non c'ho altro niente. Ma le altre le ho fatte tutte via. Ok, sì, certo. Io ne ho tolto tutto dietro, ne ho tolto anche gli strumenti, per cui avevo 3 wattimetro col coso, no? Anche, e anche il coso, come si dice, l'accordatore, l'antenna, eccetera. Ho tolto tutto dentro lo scatolone, ho messo. Era uno scatolone, non era molto alto, però ci stava tutti in altezza, però era larga, uno scatolone abbastanza largo. E dunque ci sono stati tutti bene lì, ho preso e ce l'ho conservato in massata. Poi quando mi salta in mente, poi che ne tiro fuori di nuovo, sempre che la gente che ritorni in frequenza, perché se continuiamo così, non mi dà nemmeno la voglia di accendere più, visto considerato che la sera rimane tutta la sera acceso il baracchino e non entra nessuno, pazienza, e cosa vuoi fare? E cosa puoi fare fra... Vabbè, i nostri anni ce li abbiamo fatti, a 1972 in frequenza, per cui fa un po' il conto, 46 anni e mezzo, già mi sono divertito ugualmente, già basta, dai. tutto sommato, al limite, non perdo niente. Una cosa è certa, non compro più nemmeno un PL, questo è scontato, almeno nella condizione che è oggi, la frequenza, la gente che c'è, nemmeno un PL compro, sempre che mi dovesse servire, a parte fatto che ne ho diversi, no, ma dico così per dire un qualsiasi cosa, uno spinotto, una cosa, non compro niente, nulla di nulla. Vogliono l'omologato quelli con la marca, col marchio c'è. Io non capisco per quale motivo uno debba avere. Se uno omologato, può essere anche un omologato di 20 anni fa, non riesco a capire perché oggi debba essere così. O perlomeno quello che ho sentito io, poi bisogna vedere se è vero o meno. Ma stando all'ultimo controllo che hanno fatto, che gli avevano sequestrato il baracchino, nonostante che era omologato a Natalino, è omologato e me li hanno sequestrati. Poi è bello questo, me l'hanno trovato tutto in regola praticamente, l'hanno preso il baracchino perché dice che non avevo il marchio CE. Ma che discorsi sono questi? Non riesco a capire. Mentre gli hanno lasciato il video 4, il microfono prima amplificato, gli hanno lasciato, poi gli hanno preso un rosmetro, un wattimetro che accordava anche le HF, però quando gliel'hanno preso. E poi per il resto tutto a posto, 60 euro di contravvenzione. Ma tutto questo perché? Perché lui faceva TVI, faceva da un sacco di tempo, e c'è stata una denuncia, e giustamente quando c'è una denuncia allora si muovono e qualcosa fanno, capito? Non ho capito la cosa. Se non c'è la cosa, ma non è più, c'è una cosa c'è. Comunque, sì, mi accorda che, diciamo, che non misura anche gli HF, non misura tutto, è ovvio, però mi serve più misurare l'antenna, cioè per vedere l'antenna se ha funzionato come si deve. Ma guarda che tra la rosmetro con la radio, proprio, non è una cosa strana, questa mi spedisce una strada, che mi abbiano pagato via un rosmetro, mi sono strano. E allora vengo qua, mi portano via tutti i due, mi portano via, perché uno accorda anche gli HF, l'altro accorda anche come lui. Non è un poverino, a niente mi possono portare via la radio, non il rosso. E infatti, perché con rosmetro lo fai danno, non puoi fare danno, ma loro forse hanno pensato, questo qui magari usa apparecchiature che vanno in altre frequenze, e aspetta, adesso non capisco per quale motivo li abbiano preso, anch'io sono stato meravigliato, il rosmetro, anche cosa fa il rosmetro? Il rosmetro non può danneggiare nessuno, insomma è la radio sì. E però cosa sarà poi? Il microfono gli hanno lasciato, il microfono preamplificato, e gli hanno preso il rosmetro, e più il baracchino, e più 60 euro di contravvenzione. Forse sono rimasto così un pochino sbalordito, nel senso che, ma cosa mi stai dicendo? Sì, sì, è così, mi hanno preso tutto quello, mi hanno preso. E che il caso ha voluto che hanno lasciato un VU, quello dice che gliel'hanno salvato, o quello che è il tecnico dice l'ha preso e gli ha messo da parte, perché sono andati due delle poste, sono andate due poliziotti delle poste e due tecnici, e i poliziotti che hanno fatto tutto questo, cioè che l'hanno sequestrato questo, evidentemente non capivano nemmeno che cosa stavano prendendo quelli lì. Io l'ho pensata così. È così. E questi allora non sapevano niente di come funzionava la situazione. Quello che gli dovevano sapere lì, glielo lasciate, gli hanno portato via quella di loro lasciare. E carità, ragazzi. E allora non è veramente così. Sì, per conto mio è gente poco preparata, gente che non sa niente di regolamento. anche strano, quindi vado, ma se noi abbiamo fatto la domanda per la concessione già da tanti anni fa e dunque abbiamo scritto il numero di sigla del baracchino, tutte le caratteristiche eccetera nella domandina che avevamo fatto a Cagliari, no? È arrivata quella. Se non fosse stato regolare, secondo me ci avrebbero dovuto avvisare, guarda che tu hai questo apparecchio che oggi come oggi non è più regolamentare, pertanto devi cambiare apparecchio, ce lo devi far sapere. Io l'ho preso così, invece gli hanno portato via il baracchino, ripeto, omologato 5 watt, che tra l'altro non aveva nessuna spugna, perché sono andati con un'attrezzatura, con uno strumento, no? L'hanno messo sul tavolo, l'hanno messo, schiaccia la portante, schiacciato la portante e ti dava lo spettro della frequenza, tutto a posto, tutto in ordine, però nonostante tutto l'hanno preso. Boh, cosa vuoi che ti dico, ma quando mai non dovevano andare anche da quello che si sentiva disturbato e dire, ascolta giovanotto, guarda che quella persona lì ha tutti i diritti di detenerlo il baracchino, perché è regolare, tutto questo è regolare, perciò metti da posto l'antenna tu. Io penso che doveva essere così, invece no, boh. Ma non è una carica di quell'altro lì, invece gli hanno andati e non fanno niente nessuno. Ma non lo so, e lui disturbava due o tre persone, diciamo che c'era questo da dire. Nel palazzo dove abita lui, o perlomeno dietro a lui, sempre sullo stesso tetto, c'era questa antenna e ci abita un giornalista, ci abita, e dice che entrava nel computer anche, e il baracchino gli entrava nel computer. Io ho pensato che sia stato quello soprattutto ad influire maggiormente sul fatto che lui disturbava, perché l'altro era un uomo anziano che abitava anche a una decina di metri o 15 metri anche lontano da lui, con l'antenna tutta dall'altra parte, e anche quello era disturbato, però quello magari aveva l'antenna messa male. Questo addirittura dice che gli entrava, il baracchino gli entrava nel computer, gli entrava. E ho pensato che era quello, magari, proprio per influenza di questo giornalista, aveva mandato degli amici e hanno fatto il sequestro. Non mi convince. Ma nemmeno a me, io quando sono rimasto a bocca aperta, quando me l'ha detto, ci hanno portato via il baracchino omologato, ma che tanto, sì, perché mi hanno detto, dici, perché ci deve essere, il marchio c'è, ci deve essere, e capita, comunità europea. Ma allora, in questo caso, allora, tutti quelli che hanno il baracchino da tanto tempo non sono più regolari, però noi non ce l'hanno mai fatto sapere, non ce l'hanno mai detto e scritto che non siamo regolari, perché è caspita, ma io non riesco a capire come possa funzionare certa legge in Italia. Boh. Comunque ho sentito che Corvo, Core, ha telefonato, dice, non so chi ha telefonato, gliel'hanno detto che è vero che ci vuole quel baracchino lì, con la marchia c'è. Come si chiama? Gio Maria, non penso, ci sono informati, ci sono. E dice che c'è vero, che ci vuole proprio quello lì. Solo che a noi, come hai detto tu, non ci hanno informato. Solo che dice che c'è scritto nella gazzetta, non so dove c'è scritto, io mi sono vedere le gazzette, però che mi sono sapere. Ho sentito da loro, ho sentito io di questo studio. Sì, anch'io ho sentito così voci che corrono in frequenza, però io ho letto più volte il regolamento anche tramite il computer e io non ho letto da nessuna parte che c'era scritto che il baracchino omologato sì, di bassa potenza sì, 4 watt d'accordo, 4, 5, 4 watt, prima era 5, adesso sono 4, però non c'è scritto assolutamente niente del marchio c'è. Ecco qual è il discorso, per cui non riesco a concepire come abbiano potuto stabilire questa situazione qua. Quando mai, cosa costava ha pubblicato, lo so, sulla Gazzetta Ufficiale o qualcosa del genere, anche un articolo di due strisce così sul giornale, bene o male la gente, se non lo leggi tu lo leggo io poi un quartetto, lo dice un altro e così via, e si viene a sapere. E invece no, non abbiamo avuto nessuna informazione. Ecco qual è quello che sto pensando io, per me questa qui è una grande fregatura. No, invece a me mi sembra che ci vuole un pochino di sale in zucca per certe cose, per certe regole che fanno, perché non è possibile, ragazzi, che uno debba essere sottoposto a queste cose qua. Ma dico io, all'estero, ragazzi, in America addirittura puoi usare anche grossissime potenze e non fai niente, nessuno ti dice niente. Caspita, qua, ma cos'è che non è una pistola questa, non è un'arma da fuoco, no? Il barattino è uno strumento per poter socializzare con la gente, non è niente di particolare, non stiamo invadendo frequenze, dire radio amatoriale, eccetera, stiamo proprio usando un barattino da 4 watt di potenza, stiamo usando con un semplice microfono, un alimentatore e basta, con un'antenna, che è quella che è, per cui non vedo la necessità perché uno debba essere penalizzato a questo punto in questa maniera. Ma questa è una storia assurda, guarda, veramente, solo in Italia certe cose si sentono. Innanzitutto è diverso da noi, innanzitutto usano lineari, usano anche le radio grandi e nessuno dice niente, l'importante è che non succeda niente, che non disturbino sia le autorità sia i vicinati, naturalmente. Però da questo usano tutto. L'Italia invece è una mia magna, per quello. Sì, no, in Italia, vabbè, sono delle cose assurde. Adesso, tra un paio d'anni ci sarà il problema della televisione. Tu hai un televisore nuovo, comprato magari che so io ieri, tra due anni non serve più. Perché? Perché cambiano la frequenza, per dire, no? La frequenza della TV la passano al cellulare, la passano. E magari si deve comprare anche il cellulare nuovo. Chi lo sa? Perché succede così, Perché adesso il cellulare funziona con una certa frequenza, no? Se poi tu gli passi la frequenza della TV, la passi al cellulare, magari si deve comprare sia il televisore nuovo che il cellulare. Sicuramente sarà così. No, lo dico, no, ma ci sono i decodificatori come quando c'era l'analogico, che c'era la digitale terrestre, mettevi quello e funzionava lo stesso. Sì, ma intanto devi fare una spesa, perché magari il decodificatore di quei 350 euro, come prima, in un primo momento costava, prima del digitale, è una vergogna, è stupendo. Io ne ho 5 qua a casa, i televisori installati, 5, uno in tavernetta, 2 ne ho in camera a letto, uno lo guardo io, uno lo guarda mia moglie la notte, quando sono a letto, uno ne ha mia figlia in camera sua e uno ne ho nel salone, ho 5 televisori installati, cosa devo fare? Ma devo comprare 5 televisori nuovi o mi devo comprare 5 decodificatori per poterli utilizzare ancora? Ma è assurdo, guarda, veramente. E questo dovrebbe succedere nel 2020, mi sembra, che è così, hanno stabilito che deve la frequenza della televisione la passare al cellulare. Sì, ma io sono d'accordo, uno magari lo utilizza per il computer, ma per quale motivo io devo essere costretto? Se io ho i televisori che tutti funzionanti, che funzionano bene, perfettamente, che poi tra l'altro sono tutti piatti, i miei sono tutti piatti, i televisori sono tutti moderni, per cui tu puoi immaginare, e ne ho uno 40, 34 pollici, ne ho uno a 38 pollici, ne ho tre da 22 pollici, che sono quelli delle camere, insomma, per quale motivo devo essere costretto a cambiare i televisori quando i televisori funzionano bene? Solo perché loro hanno deciso che la frequenza deve essere cambiata. Boh, allora mi devo comprare pure il cellulare nuovo, mi devo comprare, e io ne ho due, e due, tre ne ha mia figlia, o due ne ha mia moglie, ti puoi immaginare, allora tutte queste sono tutte spese che tu obblighi le persone a fare, e questa è la situazione mia, e quelli e tutti gli altri non contano, è lo stesso discorso, no? Guarda, la persona che come valore ha fatto qua la rete idrica nuova, ha fatto tutta quanta, no? E ci hanno attaccato l'acqua, Io devo dire che sono arrivato alle 2:30, sono arrivato a lavorare, e sono andato a fare la luce, non c'era acqua. Come non c'è? Poi ce l'hanno attaccata che non stanno facendo gli allacci nuovi. No, ma non più. E c'era il capo squadra di Abalò, c'era. E gli ho detto, ma stasera ce l'ha lasciata l'acqua, ecco, che si serve. No, non lasciamo niente, perché voi dovete mettere la cassettina fuori, dovete mettere, e in più dovete andare al centro, agli uffici, per fare la domanda nuova per l'acqua. Non ho capito la gente. Sì, devo rifare la domanda dell'allaccio, sì. Ah, devo ripagare. Cioè, come si paga l'allaccio? Io non ho capito niente. Io qua ho fatto la domanda nel 79. Ho fatto. E ho pagato nel 79, non di pagare neanche l'allaccio. E io ho fatto un po' di casino, questo qua, mi ha detto che ho capito che mi denunciava. Ma che denuncia? Non tanto gli allaccio. Quindi anche fatto forza, ho chiamato quelli del comune, ho chiamato e sono saliti tutti quanti, quelli addetti ai lavori, giovani tra i comuni, sono saliti tutti. E mi ha detto, se tu vedi che lei non può allacciare, io allaccio, perché io l'allaccio ho già pagato. Allora, se non me lo lasciano loro, me lo lascio io. Quindi vediamo come va a finire. Vuol dire che andiamo in tribunale, andiamo, a capo. Ma io, mi hanno lasciato l'acqua, mi hanno dato tutto loro, tutto questo, tutto quanto, e quello di Abbarò, ha detto una pazienza. Ma perché hai detto che tu per fare la rete idrica nuova mi fa pagare di nuovo l'allaccio? Ma siamo scherzati. È registrato un becco, un attimo. Sì, ma è così, un po' il discorso stesso di quando ci avevano mandato a pagare di nuovo la cauzione perché avevano cambiato gestione, te ricordi? Adesso, proprio in questi giorni, la settimana scorsa, ho sentito il dottor Profili, che tra l'altro è anche un mio amico, questo qui, l'ho visto alla televisione, che stava dicendo che Pigli aveva fatto denuncia, aveva fatto la Banoa, la denuncia l'ha vinta Pigli, cioè la regione praticamente, perché Abbanoa aveva mandato così ai clienti che dovevano pagare la cauzione, tanta gente l'ha pagata, uno di quelli sono stato io anche, e adesso c'è il rimborso, infatti stanno dando i moduli per chiedere il rimborso. Adesso tu devi fare la fotocopia della bolletta di allora, di quel periodo, chissà, magari tanta gente non ce l'avrà più nemmeno, devi mettere là il documento di riconoscimento, tutto in fotocopia, e spedirlo alla regione in modo che poi ti venga rimborsato magari quei 45 euro, mi sembra che erano allora in quel periodo, di cauzione a tutti quelli che l'hanno fatto, e sono 700 750.000 utenti in Sardegna che devono avere il rimborso. Questo è quello che stava dicendo questo dottor Profili. Per dirti, no, ma cosa vuoi che me ne frega, ormai 45 euro di donati che gli vadano di traverso, gli vadano a tutti quelli disgraziati. Ma cosa mi metto adesso a cercare bollette di 3 anni fa e tutte queste belle cose? Alla fin fine fai anche la raccomandata, non paga pure la raccomandata per spedirli, ma lasciamo perdere, no? Vabbè, ormai sono presi 45 euro e non mi fanno più né caldo né freddo. Avanti break. Già ti sentiamo abbastanza, io già ti sento, con le orecchie però ti sento, Vediamo se ti sente Franco, l'amico mio, vatti fra. Buonasera, stavo sentito Puglia, dunque dai, Franco dalla Sardegna, la provincia di Sassari, davanti a te, Giappa, tu sei qua a Cilante, a 5, 7, 9, diciamo con questo vino, sì, non so se ti immagino oppure faccio notizia. Comunque di radio ti ascolto perfettamente, Radio 5, davanti a te, esatto, ti hanno coperto adesso, l'amico controllo, segnale 9, Radio 5. Una volta per cortesia, mi state sovrappopolando, forse non vi sentite, e allora vi interferite l'uno con l'altro, una volta. Avanti l'amico che è entrato, un attimo con l'amico di Puglia, un attimino facciamo venire avanti l'altro amico che non abbiamo capito chi è, avanti l'amico. Ok, io ti sento con un segnale con SB naturalmente, arriva anche a 9, però la radio non è molto forte, comunque è abbastanza comprensibile, però quando si abbassa a segnale 3 perché parte da 3 a 9 e così via, allora diventa un po' più critica la situazione. Vediamo un po' l'amico della mia zona adesso se ti sente. Avanti Fra. Anche la radio, qui solleva e va bene così. Ok, volevo sentire l'amico della Puglia, non ho capito che il negativo. Positivo, qui stazione Cromatore Agostino, luogo di Puglia. Esatto, vai, tu arrivi benissimo, c'è una bella radio, è amplificata, è bellissima la radio. Il mio amico qua in Sardegna, lo ascolti, l'amico di Puglia, lo sento meglio del secondo amico che è entrato, che pure nel secondo amico non ho capito nemmeno il suo nominativo. Avanti l'altro amico, non Agostino, l'altro ancora col tuo nominativo, Giulio da questa parte, avanti. Sparita la propagazione. Non ho capito, sinceramente non sono convinto che sia una furia il mio Fra, la verità non ne sono molto convinto, soprattutto il primo, quello che si è presentato come Agostino. No, riparti qua, 9-5, tutti e due, tutto positivo da parte mia, affrontare, Sì, Giulio, così, dai, è così, perché adesso mi è arrivato 9-5, mi è arrivato a me, è perfetto, è una bella radio, una bella amplificata, ok Agostino, sto scendo con una radio, un Facebook, sto scendo, però l'antenna sulla stessa antenna tua, l'antenna, la mantova turbo, con la stessa antenna sul stesso mantova turbo, l'altro usando un 180 della Facebook, sto usando con l'1160, Gappa, complimenti anche a te, perché lui è abbastanza bene qua, avanti Giulio! Ok, Agostino, io sto andando con un superstar 4 watt appena, un baracchino omologato 4 watt e con un dipolo in verticale, niente di particolare, tipo tanto per essere chiari, tipo Game Master l'antenna, tipo Game Master, però autocostruita, con una canna da pesca e un dipolo in verticale, tra l'altro anche molto basso, e poi abito anche in una vallata. Avanti ancora Agostino, se l'hai copiato, cappa. Ok, sì, chiedo scusa all'altro amico, vediamo un po' se viene avanti. Avanti l'altro amico, dici che come ti chiami, perché non sappiamo, non ti abbiamo ascoltato molto bene poc'anzi, vediamo se riprende. Avanti l'altro amico. Ok, Marco dall'Abruzzo, sì, su Barabubble, Sì, ti copio bene, non ci sono problemi con QSB, ma se sei in barra mobile spiegate il tutto anche, mentre invece Agostino arriva a bomba qui, sparato proprio, oltre il 9, la radio potentissima, molto molto bella. Avanti Franco, per l'amico Marco qui in barra mobile. Sì, ho sentito che stavamo arrivando, però non ho capito niente quello che ha detto, perché mi arriva molto molto molto basso nel radio adesso, mi arriva molto molto basso nel radio. Io un po' Marco, avanti, non lo sento? L'ho sentito male anch'io in questo momento, Marco dall'Abruzzo, Marco dall'Abruzzo, non so se riesce a sentirlo, Agostino dalla Puglia. Agostino, lo senti Marco dall'Abruzzo? Ok, dai Agostino, ti salutiamo allora, dai, ci sentiamo tutte le prossime. Buon tutto, dai, ci sentiamo, buon giorno di giornata, avanti Giulio. Ok, ciao Agostino, grazie per la chiacchieratina, le prossime a risentirci in ottime condizioni come abbiamo fatto oggi, alle prossime. Avanti Marco dall'Abruzzo, vediamo un po' se riusciamo a sentirti ancora. Poco si sente. Marco, se stai ascoltando ti saluto, dai, ti salutiamo perché non ti sentiamo più, Ciao Marco, salutoni, alle prossime. Avanti fra, si sta aprendo la propagazione, vai. Questo 4-5 watt, non di più, questo baracchino, questo superstar, ed è anche vecchio, abbastanza vecchio. L'antenna, come ti ho spiegato, è un'autocostruita, tipo Game Master, però è lunga 7 metri, da un canale a pesca lunga 7 metri, così l'ho fatto, questo avvolgimento l'ho fatto sulla bobina, poi per truccarla fra, siccome ci ho messo l'H155 come bobina, no, sotto, per truccarla, per farla sembrare più originale, l'ho preso l'ho coperta con l'asso rosso, e dunque la bobina sembra la bobina della Game Master. Vabbè, comunque tu la vedi dalla strada e sembra la Game Master, ma invece in realtà è un'autocostruita, capito? Avevo il rocchetto, diciamo, così, per così dire, no? Ho comprato il cavo, l'H155 da posare, 2,50 un metro, me l'ha fatto pagare, e poi il resto è filo normale, perché il cavo coassiale arriva sino a metà più o meno dell'antenna, poi il resto è un cavo normale da 2 mm e mezzo, 3 mm quadrati, non di più, e va bene così. Funziona. Ho pensato a mettere Alfino, non è al posto della mantoba turbo, quello dove ce l'avevo prima, no? Che poi la mantoba ce l'ho sempre, però è sdraiata nel poggiolo su, non l'avevo smontata perché faceva un casino di fischi quando c'era vento la notte, mamma mia, non si poteva stare. Allora me l'ho tolta e ho fatto questa. E mi è andata al primo colpo perché ho guardato le misure dal computer, ci sono tutte le misure, ci sono, no? E le ho fatte così precise, beh, al primo colpo mi è andata bene, sia per il stazionale che per tutto, e va bene per tutta la gamma della 27. Infatti ho detto, ma è strano, che sembrava che la usi, che avevi la mantova buona, io non la uso, io non la sento fischi la notte o quando c'è vento, non si sente. Come mai tu avevi questo problema? Ma quando soffiava vento qui, quando tirava vento, siccome l'antenna era nella stessa direzione, nello stesso muro dove io ho la camera da letto, no? Evidentemente il vento faceva oscillare i radiali, e poi attraverso questo muro li trasmetteva, caspita, ma proprio nella parete dove io curico, no? Per cui la notte quando c'era vento alle 2-3 di notte se mi svegliavo, il rumore mi svegliava, a me perlomeno, mia moglie non si svegliava, ma a me mi svegliava il rumore, il fruscio di questo coso del vento sui radiali. E allora me l'ho tolto, faccio sempre, centrale è nuova nuova, devo immaginare, è un peccato. Pensa che lo stivo centrale è sempre piazzato, sempre tutto intero, e allora siccome io ho due poggioli che fanno l'angolo, di 8,50 m l'uno, e lo stivo l'ho preso, l'ho coricato lì, pensa che c'è ancora il funghetto nella punta, c'è ancora quel funghetto che danno nella mantova turbo, mentre tutto il resto, radiale eccetera, è la base, quello non l'ho smontato, quello ce l'ho dentro in massanda. Però questo qui, lo stiro centrale l'ho messo coricato nel poggiolo della massanda su in alto, che poi da fuori non si vede niente, per cui vabbè, poi non ci passa mai nessuno lì, ed è sempre un domani magari in estate potrei anche rimontarla, perché in estate il vento non ce n'è, per cui va anche bene, ma l'inverno non è possibile fra. Tutta quanta bene nastrata, parecchia mastro gli ho messo in tutte le giunture, gli ho messo, intanto c'è il manicotto, come si chiama, il manicotto di quelle a vite per stringere, poi ho coperto anche il manicotto tutto a nastro isolante, ma molto nastro isolante, io penso che non faccia niente, e poi se fa cosa pazienza, tanto non la smonto, rimane lì coricata, non me ne chiede pane, no, fastidio non me ne dà, per cui non è un problema. Se per caso decido di rimontarla, lo stiro già piazzato e basta, non faccio altro che piazzare il resto e quello è già pronto, capito? Quello sì, quello già è vero. Che penso proprio che acqua non sia passata, anche perché dico il nastro che poi una volta che si attacca a toglierlo devi tagliare, lo devi proprio spaccare perché non riesci più a svolgerlo dal coso. E avevo coperto anche il collare, quello che c'è a vite, che stringere appunto il manicotto, per cui non ci ho provato nemmeno a smontarlo, ma quasi che un domani mi salta in mente lo smonto, ma avete considerato che nessuno ci passa, nessuno, chi è che ci passa nel poggiolo della massata? Nessuno, per cui non mi dà fastidio, e rimane lì e basta, ripeto, c'è ancora il funghetto, tu puoi immaginare, piazzato. Poi tutto il resto, invece no, quello dei radiali, li ho presi, li ho messi tutti insieme, li ho nastrati tutti insieme, li ho conservati da una parte, massata, e sono dentro casa quelli. Mentre invece lo stivo è troppo lungo, sono 7 metri quasi, 6 metri qualcosa, 6 metri 20 mi sembra, boh. E dunque sono stato costretto a metterlo per forza fuori, troppo ingombrante, capito? Però l'antenna funzionava benissimo, no? Quello, ma io quando l'ho montata poi l'ho ripristinata tutto a posto, no, ma io penso che siccome ho sempre il cannello, quello che si usa per vulcanizzare i tetti eccetera, no? Il cartone catramato, e nelle giunture se per caso non dovesse mollare basta scaldarla appena lì con il cannello si sblocca, questo non lo so per certezza, capito? Così mi hanno insegnato e così ti sto dicendo. C'è stato un break avanti? Sì, Ok, Patrizio, salutoni, grazie per essere entrato a salutare. Mi sta arrivando Santiago 9 circa, il radio 5 ultimo, naturalmente sempre col QSB dovuto alla propagazione. Io sono in compagnia di Franco, io sono a Sassari mentre Franco si trova a Sorso. Te lo mando avanti per i saluti, avanti Franco. Mi arrivi benissimo anche tu, mi arrivo, se mi arrivi nuovo per Radio 5, molto molto bene. Avanti a te ancora Abaco. Non c'è Gio Maria su questo canale. Sì, Patrizio, sì, no, anche tu arrivi molto bene. Ripeto, come ho detto, arrivi quasi nuovo di segnale. Tieni presente che sto usando uno superstar 4 canali, 4 watt solamente, con un'antenna autocostruita, un dipolo in verticale autocostruito tipo canna da pesca, per cui il segnale magari sarebbe stato ancora superiore se fosse stata l'antenna da mantova tubo, che tra l'altro ce l'ho, ma non lo sto utilizzando, anzi l'avevo addirittura smontata. E poi anche in una posizione molto bassa, l'ho messa addirittura nella posizione più bassa della casa. Se io questa la dovessi mettere dove c'era prima la mantova turbo, la dovrei sollevare come minimo, guadagnerei 5-6 metri in altezza mia anche. Oh Franco, avanti Fra. Sì. Patrizio, salutoni da parte di Giulio da Sassari. Avanti, chi era l'amico che vuole entrare? Ciao Giulio, Luca sono, piccolo piccolo. Ciao Luca, piccolo piccolo, Santiago 8 quasi, per cui già va bene. Avanti Luca, sono in compagnia di Franco, dai. Ciao Fra, che mi ascolti, buonasera. Te non mi ascolta, Giulio, tu arrivi abbastanza bene qua. Ok, evidentemente tu sei con l'antennino, poi sei in quella zona lì, non sei a casa, vabbè, il discorso è questo. Non lo senti a Luca o Franco? Non lo senti a Luca? No, negativo, non lo sento, per niente. Ma Luca del Monte? Sì, Luca del Monte, sì. Ma sta modulando da un'altra posizione, non è a casa sua, è per quello, magari sto uscendo con l'antennino, per cui è per quello che magari non lo senti, capito? Va bene, avanti Luca. Ho sentito che stavate facendo collegamenti, chi era quello? Albatrox da Teramo, poc'anzi poi c'era Marco dall'Abruzzo e poi c'era un altro che non mi ricordo come si chiama, non me lo ricordo più, dalla Puglia. Hai sentito pure io, Marti, dai, l'abbiamo sentito, la Puglia. Anda bene, hai visto un acquazzone, Giulio, non so se gli ha provuto un acquazzone, ma qua ha fatto un acquazzone allucinante, gli ha fatto tutta la gatta. Sì, vabbè, succede, perché lo sappiamo, oggi la giornata è così, a momenti magari scarisce un po' e in altri momenti piove. Sì, anche qui già ha piovuto, ma non così forte come magari ha piovuto lì nella zona tua. Qui già ha piovuto, insomma, già si è fatta sentire ugualmente, però non esageratamente, capito? Avanti Franco. L'altro era lo tuo, l'altro nella Puglia. Mentre l'altro Marco, niente. E cosa sta piovendo più suave. Ok, sì. Anche qua sta piovigilando. Certo, ma non è così forte comunque, dai. Non è così forte, ma già si sta facendo sentire ugualmente, no? vabbè, dai. Avanti, Luca. Vabbè, dai, avete fatto un collegamento. Ma vedo che anche se la giornata è, insomma, un po' bagnata qua, arrivano lo stesso, Quello evidentemente la propagazione va bene, No, ma penso che al sud Italia credo che sia abbastanza buono il tempo. Dovrebbe essere sull'Appennino, magari la parte del terreno, lì sì, dal centro in su, lì dovrebbe piovere, perlomeno il meteo era così, poi naturalmente anche in Alta Italia quando stava senz'altro piovendo, anche in questo momento suppongo, perché lì doveva piovere tutto il giorno in pratica. Ma nella Bassa Italia, se ricordo bene, il meteo che ho visto non doveva piovere, perlomeno durante la giornata, poi la sera non lo so, la notte non lo so. Va bene, avanti Fra. Piano ogni tanto entra uno, metta, quindi gli arriviamo uno a porta, gli arriviamo là. Vabbè, va bene così, là, va bene. Allora con l'antennino, non so se mi ascolta, Luca, allora con l'antennino. Perché sono qua a casa della mia ragazza lì dove giù. Però posso staccare niente. Si è attaccato sul pezzo, con le finestre chiuse al termosifone. Non hai sentito, no, Fra? Sento che parla, però non ho capito. Allora, Luca si trova a casa della ragazza, lì, zona Giammaria, diciamo, dai, a casa della ragazza, con l'antenna attaccata al termosifone, se puoi immaginare, dentro casa. Ecco per quale motivo non lo senti, Fra. Io lo sento Santiago Otto, ma comunque del radio è comprensibilissimo, ma tra me e lui non c'è niente, mentre invece per arrivare a te ci sono tutte le curve, tu devi raddrizzare quella strada, Fra, così almeno è più liscia e Luca arriverebbe subito. E domani vado a comprare la pala meccanica e gli altri tutti. Fai così. Oh, yeah. Vabbè, dai. È così, in effetti è così. Non so, dentro casa, beh, fuori non la puoi mettere l'antenna lì in quella casa, Luca. Non ho capito. L'antennino non lo puoi mettere fuori in quella casa dove sei adesso? E dopo l'attacco, dove sono adesso, in questo momento non so, tutto l'appunto dove attaccato. Eh beh, sul tetto non te lo permettono di metterla sul tetto, fai scendere un filo. A che livello sei? A che piano sei? A primo piano? Secondo piano? Terzo piano, ma sul tetto non ne metto io. Oh, sono in regola, è vero, sono in regola. Però non ne metto io, proprio magari. Quello che è distrutto, non è niente, non qua. Ho capito, vabbè, quello che è vero. Non sei a casa tua, per cui non puoi pretendere più di tanto, ma comunque per Sassari va bene, perché io penso che ti sentano tutti a Sassari. Magari per fuori è un po' più difficile, perché come Franco dice, il paese lì non è facile con l'antennino arrivarci, dai. Va bene, avanti Fra. Ma non è il fatto che magari se ci fosse questa propagazione, questo corrente, l'avrei ascoltato, perché altre volte il papà l'ho ascoltato anche a casa della tua ragazza, però oggi perché c'è propagazione, sono molto bonito. Ho capito, è possibile anche quello, perché quando c'è propagazione diventa un pochino più difficoltoso. Diventa più difficoltoso, certo, e vabbè, comunque. Lui lì non può fare più di tanto. È già troppo che ha questo antennino e quattro chiacchiere può fare lo stesso, ma solo con persone che sono vicine, di conseguenza. Ma lui già è tutto sommato già è fortunato, perché intanto nella zona lì della Terocia, Sassari, lì senti tutti, lì il maggior numero di CB sono lì, per cui già va bene, già può chiacchierare ugualmente Fra. Infatti, i CB sono tutti lì. Ecco, è tutto il circondario della Terocia, quindi più lontano chi c'è? Non penso che ci sia nessuno. Più lontano chi c'è? C'è Marco Condon, poi c'è Claudio, ma Claudio so che non sta più entrando, per cui poi più lontano che ci può essere. Ah, è Antonello Pomponio, poi tutti gli altri sono in zona lì, per cui già va bene lo stesso. Avanti Luca, lo riprendi? Luca non riprende. L'amico che sta chiamando là fuori, forse dal sud Italia, non lo so, ma è troppo basso, non capisco quello che stai dicendo. La propagazione ancora in questo momento non è molto buona. Magari richiama un pochino più tardi, fra qualche minuto, può essere che la propagazione migliori un attimino. Avanti, fra, tu lo sentivi quello? C'era uno che stava chiamando la Sardegna, ma non era troppo basso e non si capiva molto bene. Ho sentito un paio di parole e basta, niente di più. Attento l'amico che chiamava la Sardegna, vediamo un po' se riusciamo ad ascoltarti adesso. Attento l'amico che chiamava la Sardegna, avanti, sperando di riuscire ad ascoltarti. Buonasera, avanti, a te ti ascolto fortissimo, Santiago Nove, Radio Ultima, avanti con la buonasera, Giulio da Sassari, in compagnia di Franco da un paese vicino, un limitrofe a Sassari, avanti, chi sei? Giulio e Franco, buonasera, Gabriel Laudino che vi saluta, coordinate Borgo Manero. Ok Gabriel, salutoni, ben ascoltato anche a te. Bene, probabilmente stai ancora lavorando, evidentemente è così, confermi che stai ancora lavorando? Sì, mi arrivi molto bene qui a Sassari in Sardegna. Avanti Franco per il Gabriel in barra pesante. Ehi, capo. Ciao Gabriel, buonasera, ben ascoltato, mi arrivi tantissimo qua, segnale di 995 e Radio 5, molto bella. Sì, buonasera, grazie per la conferma di avermi ascoltato. Io sono un CRXS 9000, sto usando un sistema avanti regale Q10 e Q201. Ehi, capo, sì, arrivi bene, per essere in barra pesante arrivi molto molto bene. Noi siamo in barra TTH. Siamo a TTH e diciamo che sto usando io una mantova turbo, sto usando, e più una radio semiprofessionale e niente altro. Avanti a Giulio. Ok Gabriel, sì, noi siamo a stazione fissa, per cui tu sei ancora a lavoro, ma noi siamo a stazione fissa. Io sto andando invece con un omologato da 4 watt di potenza, un microfono all'MB più 4 a tavolo preamplificato, e poi con un'antenna autocostruita tipo dipolo verticale. Avanti Gabriel, sei ascoltato. Sì, positivo, due arrivate alle 9:10, grazie, due complimenti. Un attimino l'amico che chiamava, sì, grazie per i complimenti. Gabriel, sì, anche tu arrivi molto bene, molto molto bene, una radio bella, chiara, potente, splendida veramente. Vediamo chi era l'altro amico, avanti chi era l'amico, credo che avesse chiamato Gabriel, avanti l'amico. Non lo sento più, Gabriel, forse era qualcuno che ti stava chiamando, ma io non lo sento più, Non so se lo senti tu, ma da quale città stai trasmettendo, Gabriel, a proposito? Io ho sentito qualcosa, ma mi arrivavo al limite, non capisco. Ok, Gabriel, sì, ci sono diverse sovramodulazioni in questo momento. No, ho chiesto da quale città stai modulando, da quale zona stai modulando. Noi siamo in Sardegna, Sassari per l'esattezza, la città di Sassari. Avanti ancora, Gabriel. Franco, l'hai copiato? Io non l'ho copiato bene. Franco, l'hai copiato? No, adesso no, cioè proprio che prendo la fine, no, non so tutto. Oh Giulio, vogliamo sentare un po' di tu. Ah va bene, d'accordo, dai, ci sentiamo eventualmente, dai. Se sono ancora frequenza già mi sentirai, per cui se hai voglia puoi rientrare, non ci sono problemi. D'accordo, io allora ti saluto al momento, ti ringrazio per la chiacchierata e ci sentiamo prossimamente. Dai. Anzi adesso che fra un po' sarà in pensione avremo modo di sentirci più spesso, almeno spero, fra. Salutoni, sempre in buone condizioni, fra. Tanti saluti, ciao. Ok, ciao Fra, a dopo, dai, eventualmente se coincide. Ok, attento Gabriel, ci sei ancora? Ok Gabriel, nel passaggio precedente non ho potuto copiare da dove stai modulando perché c'erano altre sovramodulazioni. Attento Gabriel Rumeno, se mi puoi dire da quale città stai trasmettendo, da quale posto? Ok, ho capito, sì, stai andando verso il continente svizzero, sì, Lago Maggiore adesso sì, molto bene, arrivi molto molto bene comunque, la radio è splendida, chiarissima, solo che alle volte ci sono delle sovramodulazioni e allora c'è interferenza, è ovvio, questo è normale, è una cosa normalissima, però mi arrivi molto bene, il segnale è sempre sui livelli di 9,95 e la radio è sempre 5, quando non ci sono sovramodulazioni la radio è di 5 per avanti ancora Gabriel. Sto partendo, ho ricevuto le mie arrivi. Ok Gabriel, dai. Va bene, Gabriel, io mi devo sentare un attimino, dai, devo andare in una stanzetta qui vicino, già mi hai capito, qui nello stesso appartamento. Alle prossime, dai, eventualmente ci sentiamo. Grazie per essere entrato a salutare e buon viaggio e buon lavoro. Ciao Gabriel, alle prossime, dai, sperando di risentirci ancora, magari in ottime condizioni come oggi. Ciao ancora Gabriel, aspetto il tuo saluto e poi chiudo. Ok, ciao di nuovo Gabriel, buon lavoro ancora, ciao, ciao. Hola. Ciao Mario. Ciao Giovanni. Hola. Hola 23. Capito, sei Giovanni. Capisci? Allo? Giovanni. Ecco, prego. Giovanni. Oh. Capisci? Capito? Già sono sveglio. Tu dormito sì? No, dormito so. Ah, dormito sta. Com'è questa radio, Luca? Va bene, bella. Bella? Allora non mi posso lamentare, ah, va bene. E allora, Luca, mi faccio desiderare questa volta, Non fa male, arriva la piccolostro. Ehi, poi lo posso andare io a prenderlo. Ah, tu vai a prenderlo. Ah, dove? A Porto Torre. Eia, ti ho dato risposta, tu. Ehi, me lo stava dicendo. Aspetta, ma non te lo mai vedo fotografie. Mi l'ha mandato poco fotografie. Sì, a te, tu la da me. Vabbè. Ma così paga, va. Ciao, ciao, avanti, buonasera. Senti anche Gianfranco, se non sbaglio. Non ho capito. C'è Tore che è entrato adesso, dai. E Gianfranco anche che ha salutato. Avanti Giovanni, senti. Forse a me non mi sente. Ehi, signor Giovanni, buonasera. Caspita. Oi, ciao Luca. Se no non ha mandato a me le fotografie. Ciao, ciao. Avanti Gianfranco. In questo passaggio ti ho ascoltato, buonasera a tutti, ma ci sono parecchi disturbi, forse c'è qualche temporale in giro. Buonasera, comunque sono all'ascolto, ciao a tutti, ciao Gianmarì. Sentivo che chiamarvi, ma poi ogni tanto mancava, diciamo, si interrompeva la comunicazione. Riprendi Gianmarì, noi rimango all'ascolto. Buonasera Giaffra, e buonasera anche a Tore. Ma ci piove lì Giaffra? No, qua no, ma vedo che dalle tue parti sicuramente sta piovendo molto. Ogni scarica, ecco che buco è, vai su Madonna, mica la forte mica. Oh, Tore! Ciao Franco! Sta piovendo ancora, sta. Certo, chissà che andiamo. Da domani ha finito tutto. Franco, mi ha ascoltato? Sì. Io lo sento, però lo sento strano, come radio strana, sempre FM quasi. Anche a te lo faccio, Mario. Franco, ma male mi stai ascoltando? Tipo FM, come se fossi in FM ascoltandoti in AM. Ho passata, passata. Poi c'è anche propagazione adesso. E poi c'è la propagazione che sta tirando forte più di me. Buonanotte, ci sono i francesi S9 stanno arrivando. Io intendo sì, cazzo, sono più forte di me. Luca! A qua sono. Hai ragione con i sentivi. Ti sei stazionato, li avevamo più anche da che non entri. Io accendo, chiamo, non c'è nessuno, cosa posso? Prima che io capita ieri. Andare, andare. Dai, dai. Ciao Marino. Un attimo che... Mi sento basso, mi sento troppo basso, non so perché. Mi sento troppo bassi, per cui sto guardando per un po' cosa c'è. Ah, non ci avrai lo square, si è chiuso o no? Può anche darsi, adesso controllo, dai. Fatti girare, entra con un break, dai. Sì, gli si divora, ci sono tappelli. Dai, il QRM dei tappelli. Ah, Franco, racconto e non racconto. Franco, ancora mi ascolti? Sì, adesso ti ascolto un po' più forte. Aspetta allora che aumento il tono, ma si bisogna andare la batteria dai nonni. Adesso più bene va. Da me sì, adesso sì, il segnale è abbastanza buono, riesce a passare questi qua, ci sono sotto. Ma rispetto a prima non c'è paragone. Giomari, mi dicevi tu? No, a me Giomari non mi sente. Giovanni, lo ascolti a Franco? Che cosa sei tu? Santa Maria di Pisa. E com'è il segnale? Basso? Cioè non mi passano qui, sino di propagazione. Da me no, a me arrivi bene come radio, il segnale è 9 e radio è buonissima. Sento tranquillo. Ma c'è cioè, l'RFGN è abbassato, Giovanni, non se ne accorto. Sicuramente. Paolo Squerci, anche. Messo a posto hai, Gian Marie. Luca! Luca, deve lasciare l'anno da Paddo. Te, chi si divora a mezzo a rivendere voce, va, fra? Stanno suonando il segnale, propagazione. Fa anche molto... Questo è aspetta, mi stanno arrivando sì, mi stanno arrivando 6, 7 che brucia. No, qua c'è un 9, questo è 9.20, questi sono 9. E se tu sei dalla parte di Usilo, vuol dire da lì lo senti più forte, li senti. No, non sono a Usilo, sono di fronte a Usilo, però lontano, che Usilo lo vedo in diretta. È zona tratto comunale. Ah, io allora. Allora, tutto da lascia bassi. E allora sei più vicino di me. Ma questi sono italiani adesso? Ci sono anche italiani, calabresi. Cosa hanno detto? Tutto mischiato due. Non si sente. Oh, il macello. Figurati sugli altri canali, sul 5, sui quelli più trafficati. Sì, sui. In tutti i posti adesso, in tutti i canali sono trafficati. Molti se ne vanno ai canali più alti. Ma io c'è molta preparazione, lo stesso, che altro vai. Vuol dire che il tempo è buono per la propagazione, però so che sono già buoni tutti quanti, in fila, si coprono tutti quanti, ci coprono a noi. Magari poi sentono anche a noi e facciamo la stessa cosa. Quindi, vabbè, meno male che un po'... Che non si sentono i russi, i taxi, quelli erano micidiali. Quelli sono da parecchio che non li sento più. Però pane serrato, tutto canto, baete. Quelli hanno regalato i per fare il lavoro, sarebbe anche ora. Infatti, ci sa. Se non siano... Aspetta, se è entrato Gian Maria. Gian Maria! Eccoci qua, adesso vi sento più bene. C'era qualche filo che non toccava la bagna, l'ho toccato un pochettino, così lo spinotto è già... La ricezione è ritornata bene, già fra. Ok. Ma cosa c'è? Il cicalino c'hai, Gian Maria? Come? Il cicalino c'hai! Non ti piace? Certo, gli ha dato c'è cosa nuovo esci. E bisogna aspettare sempre ciò, e ci fa chi dà ragione. No, ma sirena. Come già fra? Tipo sirena ti furto. Ah, ehi. Com'è Ettore questa radio? Come radio è buona, è chiara proprio. Allora, e a te già fra? La solita tua, Gio Mario. Ok, vabbè, dai. Bene, bene, riprendi, fai girare, dai. Il leggicalino, di. Giovanni, ma è quello che dicevi, è nuovo? No, è un vecchio apparato che c'avevo, cazzo, che l'ho buttato fuori a vedere un po'. È omologato, curioso questo. Vabbè, riprendete voi che io sono in ascolto, sto anche facendo un'altra cosa qua. Ah no, troppo stai facendo. Oggi è il riposo perché sta piovendo. Sì, il riposo è difficile da fare. Sì, vabbè, dai, continua, vabbè, dai, ti lascio in pace. Però Giovanni, tirato avanti, dove sei andato in giro oggi? Oggi non ci sono andato, faccio fatto le cose che dovevo fare in casa e boh, dovevo andare a vedere un cane, invece no, non c'era, per più si è piazzata l'aria un po' che ridurita, ma va e fendeva. E mi sa che io stavo preso dal pantaloncino, ho fatto l'analisi. Meno male mi hanno sbrigato subito, il primo ero, puoi immaginare. Già mi hanno sbrigato subito, boh, no, però sono uscito dal supposto, sto un giorno in casa, là. Però va bene così. Vediamo un po' se c'è anche Luca del Monte. Luca! Controllo! Ah ragazzi, ho avuto il controllo! Ah sì, che tu fai mentre va! Avanti per il controllo! Santiago 4 e Radio 5, perfetta, buona, se siete a Roma. E io? Sardegna, Sassari. Fortissima la propagazione qua, arrivi forte. Ok, anche per te. Ci sentiamo le prossime. Riprende Giovanni. Ok, chi era? Amico di Roma era? Sì, un amico di Roma, Giovanni era. Ci ha chiesto io, a me arrivi a 5, 6, che butta. E la radio era buonissima. Sì, io mi sentivo anche a me arriva a 5, 6, la radio era buona. Ma c'è propagazione buona oggi, dai. Si sta attaccando questa propagazione, vabbè. Ogni tanto la chiacchiera tira fuori, fa bene, dai. Ok, chi altro c'è rimasto? Luca! Ok, ti ringrazio l'amico, comunque buonasera. Gian Maria da Sassari, vicino anche all'altro amico, Sore. Hai visto tu, anche a Roma arriviamo. E meglio così, se arriviamo bene e forte a Roma è la propagazione che ci aiuta dalla Sardegna. comunque, arrivi anche tu forte, dal 5 al 6 di Santiago, anche a te, se sei in viaggio, buon viaggio. E in quale parte della zona è di Roma? Non lo gioco, non la gioco compreso vede dove era Giovanni. Hai sentito Giovanni, campagnano. Va bene, arrivi bene comunque, dai, complimenti veramente, arrivi bene. Ogni tanto marci abbassa la radio, però è il caso della propagazione, però adesso sta arrivando proprio bene, Santiago 5, Radio 5 proprio. Radio omologate sono queste che abbiamo noi, sono radio omologate con 5 watt, non di più, e anche qua è così, anche qua ha preso anche temporali, ci sono, anche qua sta piovendo, è dirotto pure. Ok, ci sentiamo alle prossime, ok, buonasera. Prende Giovanni. Propagazione buona, ecco. C'è la propagazione buona. Allora, Gianfranco in quel ricchi. Che altro c'è rimasto? Luca deve darsi andare a mangiare. Lascia più teso, andare a vedere. Comunque, hai teso. Se tenne un buon a Roma, se intendere. Chi sa che non si intende andare a Svizzera, a Buru. Signori, sentite Francesco in chi sei? Non si capisce un H cosa stai dicendo, troppo amplificata. Alla Sicilia hai detto, così. Insomma, che ho preso la radio? No, non ho capito perché era un po' amplificata, Se la abbassa poco a poco, magari ci riesce a capirlo. Attenzione all'amico, se abbassi appena l'amplificazione riusciamo a capirti. Attenzione, canale 23, canale 23, ascoltate Centro Italia, Brecco. Avanti il Brecco. Qui Centro Italia, vediamo. Sì, che ti ascoltiamo. Radio 6, 7, radio 5, buona adesso. Perfetto, dove sei tu? Che non ho capito dove vai, che stai modulando. Ok, Viterbo. Qua è la zona di Sassari, Sardegna. Sassari, Sardegna, collegamento in USB con Lissano. E quindi la propagazione, diciamo che è medio corso. La situazione va bene. No, lo scorso novembre è un po' più difficile. Se non si accorge, ovvio, mi ascolta qualcun altro, lo so. Ciao, Viterbo. Gianmari, lo ascolti tu? Gianmari? Settore! Lo ascolti, da Viterbo era? Già l'ho sentito, ma ero un po' distratto, da Viterbo. Sulla parte di Civitavecchia, quella zona, mi sembra che sia così. Confermi, l'amico? Ti ascoltare, Bene, ti arrivo, sì? Tu arrivi da meraviglia, Santiago 7, Radio 5. Tante modulazioni, specialmente insomma della banda di Centro, comunque vedere quando anche finita data di Raido, stazione Tornato, Giorgio, data la zona Carli, la diverso. Ok, ti ringrazio, ricambiate tutto al centro, ciao, buon proseguimento di serata, ciao. Hai visto Gianmari, arriviamo dappertutto, Chissà che non arriva mai a Casalugo, che non va bene il laterale. E l'FM vuoi di mandare, ma non di più. Chi è Gobiffi? Otto. Dimmi. C'è un ritardo del bipite. Non si attacca subito, c'è un ritardo. Bisogna regolare qualcosa qua. Come moglie c'è di. Infatti bisogna farla più in fretta per essere più in fretta, è bellino questo, E qual è? Quello uno di quelli omologati che c'ha Bibi? Ah, che è quello che avevo ordinato, quello nuovo, quello piccolino, c'ho colorato. Ah, è arrivato oggi, ti è? Il 2000, dai. E ha già compreso, paghi su, bisogna regolarlo allora. Perché è tutto digitale questo, Non è a manopole, capito? Bisogna regolare tutto dal menu, bisogna entrare nel menu. E così via. È bello, è come, piccolino, cattura mano, Ah, si tragitti che ragante una mano, era minorillo. Mi domani forse arrivi che so di cosa, di Bacchisio. Almeno questo lo posso mettere in macchina, o in tasca me lo posso mettere. In macchina va bene perché è piccolino, occupa meno posto, per cui mi sembra che accetto posto adatto. Perché è piccolino, veramente bello, dai. Aspetta un attimino, forse ho sentito anche a Bacchisi, ho sentito, vero ci sei Bacchi? È sicuro che ci sono, buonasera a tutti, belli e brutti, avanti signor Tole. Sì, buonasera anche lì signor Bacchisio. Aspetta che c'era anche un'altra persona che voleva entrare. Chi è che ci ha detto chi siamo? Non può entrare, peggio vai. Anda bene, riprendi Gio Marino. Oh, signor Bacchisio, buonasera. Come va a quest'ora, cazzo? La pioggia l'ha fatto scappare. Non mi dirai no. Sicuro sì, è sicuro che sì, la pioggia è muy forte. Muy forte la pioggia. Acqua. Benevera. Ma che pipi feo però, già mi scusa se te lo dico, non mi piace niente, io. gno. Ma brutto è, diciamo, a rompe o no? Sono strano, però. Ma senti, sono bimbi così. Capito? Boh, non so cosa dici tu. La nuova generazione degli apparati sono. Hai compreso? Vabbè, ma no, l'immunizzazione è bella, proprio chiara. Proprio formidabile con l'immunizzazione. Infatti è chiara chiara proprio, è bella anche. Amo proprio la voce sua. Allora faccio la fare. Già ti ascoltiamo, ma non se mi interessa di stasera. Andate. Allora, signor Bacchi, c'è anche Gian Maria che stava entrando, e vi siete sopramodulati. Io ho qualcuno da fare, non ho sentito. Ho calpestato. Abbiamo parlato in due. Sempre sia, senza da fuori. Io la metto su Roma, uno di Viterbo, qualche altro di Roma Sud, boh. E la metto su stasera. Ah, va benissimo, vuol dire che le cose funzionano. Allora, sei già morito. Infatti, c'è una propagazione buona stasera, Arrivano tutti qua, si accavallano e certe volte si capisce il tubo, né uno e né agli altri. È troppo, troppo. Sì, la propagazione fa questo effetto, purtroppo. Però sai com'è, ogni tanto magari va uscita, va bene, ma non è che ci interessi più da tanto, Ok, riprende, ma chi? Ehi, è così proprio. C'è popolazione, muy forte. La pioggia oggi ha rotto, stasera ha rotto questa pioggia. Oh, che miseria. Ma sappiamo tornare. Poteva fare un po' di soldi, no? Mi dovrei raccolti, questa pioggia. A te non interessa la pioggia perché devo lavare il cane. Infatti, anzi la ragion barato mi tocca da asciuttarlo buru. Ma con cui c'è pulito. Tanto lo sto spazzolando ogni giorno. Beh, un po' di spazzolamento, una pettinatura. Manda la parrucchiere, dai i soldi per la parrucchiere, ci fai capire. Fermo così, fermo. Ma cosa ha pigliato un po' credo di più, già stasera si ha preso. Grazie, non si è sentito più. Ieri sera l'ho sentito, ha detto che entrava oggi, il 27, ma mi sa che se ne sta in gallo 2. Ma non è fatto che trovo di troppo, no? Non si è fatto più di meno. A chi si grida entriamo in coso, in ghidda, Solo che ogni volta che è giunto la piazza magari si rompe, capito? Anche quello c'è, invece noi non l'abbiamo portato di mano, finito e via. Infatti, noi ve l'abbiamo buttata di mano e fammo brima, andate. Vabbè, aspetta bene, Gian Maria. Dimmi tutto. A metà ti interrompi, Gian Maria. A metà stai parlando e chiudi. Non ho capito, no. Che parli a metà? Il microfono vuole subito. In ritardo, c'è tutto detto che c'è in ritardo. Gian Maria. Da che re? E lo fai che lo c'hai? Riposato sto. Ciao Battista, ciao, ma prima mi stavate chiamando, ma adesso mi approfitto e mi faccio la barba. Avanti Battista, mi ascolti. Insomma non ti ascolto, buonasera Luca. La barba, basta andare fuori al barbiere, la barba te la fa. Cosa stai lì a fare la barba a mano? Tu vai al barbiere. No, la mia è curata, dai. Sì, vabbè, va bene, te la farò, sì. Bravi da copioti! Sì, sono lunga e trascante. Attento, sono benissimo allora. Piano piano lo si fa anche questo. Vediamo se arriviamo ancora in Australia. Avanti, collega, buona serata. Ma, ascolta, muovi QRM, molto QRM, dunque non ho capito cosa hai detto, niente da fare. Si sente sì la modulazione che arriva a Santiago di 6-7, però non si capisce, molto QRM. Sole, riprendi tu, ti ha ascoltato l'amico. Reggio Gavardo. Sono tutto in mezzo al QRM. Attenzione l'amico, ti ascoltiamo in mezzo al QRM, non si riesce a capire nulla. Sì, ascoltate la provincia di Ancona, buonasera. Ah, sono finito di Ancona. Aspetta, provincia di Ancona. Ancona, aspetta un po' se ti ascolta. Attento collega di Ancona, buonasera da Sassari. Ascoltate l'Ancona, buonasera. Siamo una distante di una 25 molto, molto Sicilia con il paese di Ocapa. Ocapa, allora, il mio nominativo è gigante, dalla città di Sassari, Sardegna. Dopo questo passaggio si è arrivato pulitissimo, Santiago 9, Radio 5. Avanti ancora si ascolti Patrizio in Sardegna. Allora ripeto, il mio stile è gigante, l'operatore Patrizio della città di Sassari. Avanti si è ascoltato adesso. Ti ascolto, ok, si manda avanti un altro collega, avanti Gian Maria. Sì, a che a me arriva 7 e 4 di radio. Comunque buonasera anche all'amico. Sì, avanti, grazie per la tua serata, ciao. Più avanti in USB arriva molto bene, ma se no più avanti rimane a passare in FM. Il casino, boom boom. Cioè, dovrei spuntare un attimo di meglio, di spostare la prova. A voi se dovete passare in FM, quando apre quello della scandella, se tu uno lo sentivo mica. Ascolta collega che chiami. Qui in Sardegna ne arrivano parecchi, molte sovrammodulazioni, e dunque è difficilissimo tirarti fuori a voi. Avanti ancora, si è ascoltato Sassari. Ma chi ti ha detto di passare in FM per ascoltarti bene? Sì, passiamo in FM. più pulita, la noia è più pulita. Ma anche Gio Maria è seguito, dai, in FM è chiamato. Oh, io l'ascoltavo benissimo in FM. È un rauco, lo sentivo. Oh, io lo sentivo benissimo. Vabbè. Chiedete, ma è in FM, è chiaro o si va da qua? No, poi si va chiaro, ma basta, basta, va bene. Proprio ho fatto. Deve essere che c'è qualcosa che non va. Ma adesso bene sto uscendo. Sto uscendo bene. No, ma è per quello che ho aumentato ancora il microfono, invece se sta cominciando ad andare la batteria da qua. Come vai? Devi darsi Bacchi, se ne sta andando la batteria, se ne sta andando. Così è. Tanti saluti, alla prossima compro la nuova. E domani guardo se la trovo, la prendo. Niente, Santiago Nuvi arrivini. Certo che andemmo. Ehi, aspetta un attimino per il brecco. Mi ha sentito Bacchi? Pronto. Ehi, c'è questo pronto. Avanti, pronto, buonasera. Ecco, chi vuoi che parli? Se secondo da dove arrivi, stiamo chiudendo la porta. Buonasera, uno all'altro, avanti. Come pare Mario, mi pare a me, eh? Ecco, ho preso l'altra tomba nel semi. Ciao. E allora, come andiamo, signorini? Sto vicino sul macchizio. La stavo chiamando, ma non rispondo mai sul macchizio. Mi ha chiamato al telefono. Non ho più guardato. Anche in tasca, se l'ho potuto fare. Buonasera Marina, ben ascoltato. Questo pronto, pensavo che era una protezione da fuori, perché arrivano da fuori come niente fosse. Non so, questa è una cosa, sicuramente. Bene, che manco, tutto ora, da chi c'è, poi c'è? Signor Gio Maria. Avanti Gio Maria, buonasera. Si deve essere accettato Gio Maria. Ecco, Certa Maria, ti sei fatto intendere tu così. Gira, ti arriva in più l'altro di fuori che tu. Adesso ho passato l'antenna, l'avevo a contare per poco. E devo fare i lavori. Avanti. Noi siamo stranieri, noi siamo italiani, non stranieri. Faccio promodura tu che sono marino, ci ho compreso un tubo. Non so, gli altri sono solo più forti, ma io sono piccolo, so, cosa vuoi che faccio? Avanti, da chi? Sì, adesso sta facendo bene. Al momento che arriva la propagazione, si scopre, infatti se sono potete fatto contore, niente, si è sentita più la propagazione che tu. E non so, da chi ho passato sicuramente in a terra perché sto preparando perché l'avevo contare, che non c'è la pure questa settimana. Io mi sto preparando, tutto. Ho sentito un'altra voce da vicino, avanti. Ciao Marino! Ciao Tore, ciao Bacchisio, buona serata, riprendi? Ciao Giulio, buonasera, ben sentito. Avanti Tore. Sì, buonasera Giulio. Caspita, stasera ti ho sentito e va bene uno di voi. Voi, voi sei parito. Perché è mancata la luce, poi è mancata la luce. Io ero tutta la sera parlando, io e Franco Di Sorso, eravamo insieme e abbiamo parlato dalla bassa Italia sino al confine svizzero, dunque immaginate. Abbiamo cominciato con la Puglia, poi è entrato Teramo, poi è entrato l'Abruzzo, poi è entrato cosa è entrato. Boh, insomma, alla fine la Goligarda è sino al confine svizzero con un camionista rumeno. Dunque abbiamo chiacchierato abbastanza, dai. Poi avevo più di un'ora e mezzo, va vedere. E per quello ti ho sentito, adesso che è entrato, boh, non ti ho preso più. Sì, perché avevo chiesto un attimino di tempo che dobbiamo entrare nel QTH piccolino per un attimo. E poi quando ero dentro addirittura è mancata la luce e poi fin quando non è tornata la luce qua, dunque non potevo. Ma adesso vi stavo ascoltando facendo voi di ex con quelli. e l'ho lasciato fare, non volevo intromettermi, era già troppo le sovrappopolazioni che c'erano, poi mi ci mettevo anch'io ed era ancora peggio sarebbe stato. Avanti Bacchì. Ok, buonasera Giulio, ben ascoltato dopo 5 e mezzo. Va bene, tutto così. Oggi preparazione, oggi abbiamo gli stranieri, gli extracomunitari. Appunto. Non potevi entrare quando stavamo parlando con quelli del continente, io e Franco. Non potevi entrare anche tu. Così avremmo allargato la ruota, no? Tore. Stavo per entrare, poi stavo facendo cos'è qua a casa, ho detto se entro poi no, non finisco più, ho preferito finire che entrare. Poi sono entrato, ti parli. Sì, appunto, come ti stavo dicendo, io me l'ho sentato un attimo e intanto nel frattempo è mancata la luce. E ci ha impiegato un 5 minuti buoni a ritornare la luce, poi ho acceso la televisione e stavo guardando un film e lo sto guardando anche adesso. Sì, gli avevo subito un attimo. Ma mi ha chiamato pure io su fa Savonica. Vabbè, dai, devo interrompere un attimo perché mi hanno chiamato, è entrata mia figlia, ha chiamato per scendere giù un attimo. Dai, a dopo, eventualmente se non ci sentiamo vi saluto. Riprendi Mari, dai, riprendi tu, vediamo un po' se posso ritornare. Riprendi Mari. Ok, Giulio, come fate? Noi siamo qua. Siamo qua ancora. Va bene, da chi io? E allora? Adesso non sei uscito, Bacchisio. Bacchisio, non sei uscito. Gio Maria, ancora ci sei. Maria, riprendi, non c'è Gio Maria. Sì, magari c'è stato tanto, cosa non lo dico. Oh, Bacchisio, sono uscito, e sto riportando. Sì, adesso ho cambiato la scelta che fa. Ho cambiato apparato, ho scelto, sto. Adesso ti ascolto anche molto modulazione. Ma quella modulazione, di poche anche io, no? Era un po' strana, un po' latina, capito? Tutto qua. Questo è migliorato, avanti. Sì, questo è l'altro. Questo è l'ultimo. Però là, quando scatta un po', vai dalla sala. Sì. Un giorno di tempo, cioè poi lo metto a dormire. Adesso sei basso basso come modulazione? Questa è bassa. Questa che è. E adesso è aumentato? È un pochino aumentato, là. Adesso mi guardo un pochino. Avanti, sto. Già è così. No, questa già è buona la modulazione, Bacchi, già è abbastanza buona. A voglia. Anda, beh, anda. Cazza. Tanto non ti arrivi tu, no, Bacchi? Domani dovrò arrivare. Ah, domani, anda, beh, va. Io mi resisto in un microfono, del computer, e non si riesce da ciappallo. Ah, questo. Adesso scendo, sono io, non vedo là come si muove, non ho sentito. Sì, a voglia, abbastanza. Più di Marino. Io sono andato a sì, ripeto, sono andato perché ho passato il tempo. Devo svoltare tutto, capito? Devo fare da voi dunque. Mi sto preparando tutto qui. Avanti la chiesa. Adesso sono andato con questo minuto. E io stai uscendo, l'altro qua. A voglia, a me arrivi abbastanza bene, anche di radio. È un casotto questo volantino, è un casotto. Che da prendere tutto, mettere dentro una busta e pulire un casotto. No, non fallo Bacchi, non fallo. Chi è quello qui a Fondoscala? Sentito l'hai visto? Sì, l'ho preso, mi arrivi da Fondoscala, poi si è abbassato a piano piano. E ci vado da fuori. Ma doveva essere in manda laterale però, doveva essere. In manda laterale, sì. Ma Fondoscala questo. Avanti da chi? Ma il bimbi a te adesso, no? Io no. No, ce n'è bippi qua. Chi sei bella, raga? Dottore Stranamore va a buccio di mani. Dottore Stranamore, c'è una di le mani, non ho fatto un cavolo. Ah, gli dermacchi, ti ho deciso di dappano. Perché Io ci sono faccio mai se dappa, ma lì non ho dappa di un tutto. Qui a cosa scala? Ma se ti copre, a volte stai parlando e ti copre questo. La propagazione oggi è un bel forte, ed è perché che l'aria dell'acqua sta facendo arrivare forte. Sì, ma che non deve avere, che cosa mi deve avere? Che 500, 600 o 1000. E noi invece stiamo uscendo con 5 e 4. Sì, ma se dopo 5 minuti sono 600. Ascolta, ma chi? Non l'hanno mai ascolto, non mi ascolto, mi stavo comprendo quest'anno. A me stanno coprendo, forse sento che sei troppo basso, ecco cosa è, c'è un'antenna troppo bassa e non riesci a prenderci, chiedi di dappani, andate, dai, vai, ci sentiamo là, se vuoi rimanere all'ascolto, ci sentiamo alle prossime. Non hanno buon ascolto, che non ti fossi di voi, figurati, andiamo a fare una scala, ok, dai, non hanno buon ascolto e continuate, dai. Ok, ciao Maria, alle prossime. Magari, si prende Bacchi. Ciao Marino, buona serata. Si chiama ogni po', già siamo qua. Se ne fa la propagazione, troppo scala. Pazienza, dai, io, cazzo, che andemmo. Ma la dice nel microfono, dal computer, che vuoi entrare dal computer a vedere se riuscivo a farvi dare con qualcuno al computer. E lì arrivano puliti, arrivano. Andò a Baidu, si era ciappo con un pareggio. No, c'ha uno spinotto, è uno spinotto che deve entrare nel computer. La baionetta. Uno spinotto, come quelli del coso, per le recce trasmettenti dietro. E li ho visti anche in coso, nel computer, ce li ha Media World anche, ce li ha un euro. Io non ho mandato a telare, no, quindi non ho accorso, lo sento ma non posso andarci. Se si manda la terra non ci posso andare io, a MFM giuro. Se le presto io la banda laterale, insomma. Non ce l'ho banda laterale, a MFM, massa. Ho detto che c'è a Cosio, a Città Mercato, il microfono, e anche a Media Walk. Già mi avrà compreso Battisio. Capito, se vuole parlare col computer, tra poco lo mandiamo a Roma. Graziano il Letargo, è in quarantena Letargo, Graziano, che lasciamo lo stare. No, ma lì, vi provo a farvi Davide, si esce dal computer, se esce, ci parlo qualche volta così, vedi, hanno bisogno i romani. Ma io ce l'avevo, quello del computer di che fa, non so dove cavolo lo metto, ma lo cerco, se c'è te lo do, tanto io non ne uso. Anch'io ce l'ho nel papere, però non so che in gallo che decido, si sa che carascio, Come il mio, è bello remunito e male seccato. Sa che la gallo, va via pure le cuffie con il microfono. Le cuffie con il microfono, la sentire giù lampade che siano i fasciati. No, l'altro microfono ce l'avevo. Deve essere in qualche cassetto, deve essere. Pecca, pecca, chi cerca trova, bisogna forruggiato. Infatti, piano piano, già non ha giù di la Brescia. Andate là. Ti prende signor Bacchisio. Ehi, fai prima andare media vuoto. oppure a un euro. Sì, vabbè, se ne ha capo subito. Ce l'hanno tutti, dai, dappertutto ce l'ha. Per cui no, non ci sono problemi, capito? Sono dappertutto, se uno lo vuole glielo trova subito. Infatti, se uno lo vuole glielo trova subito, sì. Certo, anche no. Oggi basta che ci sono i soldi, trovi tutto, dalla alla testa. Infatti. Già si trova tutto, bisogna togliere i soldi. Perché noi ne abbiamo tanti di quei soldi da buttare proprio, vero Bacchi? Sì, non bruciano, sono tanti di quei soldi che non bruciano, insomma. Per carità, datemi date le bocche, su bocche che ti date di ripigliare subito, fai rientrati e scendi subito. Non posso passare mano per passati e poi devi ripigliare pure. A me mi viene il figlio da Panova. Ehi, sono da Panova, di tutto. Capito, di tutto. Per carità, vabbè, l'importante poco a poco ci siano. Quella cosa. Un male che non viene nulla. Perché queste vanno da Cagliari e ritornano qua. Non so se vengono da Roma, se vengono da Roma, perché da Roma poi magari ma Cagliari, c'era un giro d'antiera, non ci vedo. Guarda, c'è da prenderli e fargli tutto quanto un coso, per carità. Tu vedi, c'è di bassa in banca prima. Infatti ti chiamano sì. Ti prenda signor Giovanni. Sempre lamentandovi state, andiamo fino a metà, se non fanno peggio. A me da 3 mesi non arrivi alla bolletta. Pensa un poco. 76 euro. Grazie. Io l'ho già pagata. La settimana scorsa. A Panova. A Panova arrivi a Castra, è zitta. Ma l'ho piccato acqua. E allora dille Giambattere Guntadori, dille Giambattere Guntadori, ma chi? Farti venire a controllare il contatto e fartelo mettere nuovo. No, no, quando è che non sentiamo cose che erano da qui, c'è con negozio. Quando ho chiuso io, ho fatto la distretta, allora era, non c'era Panova, c'era il comune. Ho fatto la distretta. Adesso ultimamente, a gennaio scorso, ho dovuto pagare 1900, prima mi ha tornato un po' di monetine da 2000 euro. Perché? Certo! Perché dice che acqua io ho fatto, se io gli ho fatto vedere i documenti, che era chiuso, e invece tutto. Io sono andato a vedere, non tanto che non c'era il comune che ha portato via, ma per capo l'hai fatto fare la lettura, dimmi tu, io gli ho detto, come avete fatto fare la lettura, e tutto questo è un lettura che hanno fatto mettere la lettura. Ah, si sa che il gestore l'ha deciso. Ma scusa, se se l'ha portato via il comune, come fanno a leggerlo loro? Il comune prima scusate non la prende, ma via che tu registro, se via. Riprenda signor Giormaisi. E chi è? Ha detto andare al canale 12, a Ghisciu. Noi 12 non ne abbiamo, noi solo 23. Spero signor Giormaisi. Già, il fatto è così. Ormai. Pagata dirai, Bacchi. Sì, pagata, se non credo, pagata vi dico che c'è il giudiziario. Non pagavo, non davo un sociale giudiziario, hai dovuto pagare abbassare i pantaloni e boh. Se sei andato dove sei andato? A me era da aspetta, 3 mesi, c'era aprile, marzo e febbraio, c'era. Di questo fatto qui, se volete che non pagate, stavo volete non pagate. Ogni volta che aumentava di interesse, moltissima volta, aumenta. Anche siamo arrivati, a fine del mese, due prego del bambino, perché il caffè non lo pagare. Forse a parte il pantalone perché ha tenuto, lo spiega. Andiamo dove andiamo, chiatta. E tu già mai pagata, sì? Che bacchi ce la diamo da me, ve la diamo pagata a te una bolletta. Io già l'ho pagata. Bisogna pagare già mai, no? Con questa qua non c'è nulla lì, diciamo il confello la parte del mare. Bacchi, paga. Per carità, che poteva rivendere. Se possiamo mettere le cose, però la pensione non se la metterà mai a lui, Bacchi. Se per ammattizzarsi è possibile più poco. No, questo qua se la pensione aumenta. 3 centesimi o 4 centesimi. Ora questo mese se ne aumentano 4 centesimi, a questo mese vengono 5. Capito, no, a me mi si è aumentata da gennaio, mi si è aumentata di 26 euro. Tu sei allora favorito, non è che c'hai qualcuno che ti aumenta a te. No, da quest'anno era, se superi 1500 euro si aumentava di 25-26 euro. Se invece non superi 1500 euro si aumenta di 3 o 4 euro. Come c'è noi da me a Eva, certo di giochi di 3-4 euro e più è massimo. Certe volte ne piglio più io e certe volte ne piglia più lì e a me di meno, il macello. Perché sta Bacchi, paghiamo. Domani mi pagare e poi il cibo, no, guai, ma adesso da lo prendo nuovo, vedrai che più praticamente. O se ne pigliami un tutto se lo aumenta. Infatti, o te ne pigliare un tutto o te lo aumentano. Beh, Di Maio e Salvini entrano, hai compreso? Entra uno delle 5 Stelle, un terzo. Però entra uno, mi dà. Ma dovrebbe essere tra poco, siamo in ore per sentire chi è. Stasera, alle 7 dovrebbe essere già fatto il presidente, perché Mattarella ha detto non voglio più entro alle 7 voglio il nome, perché deve entrare il presidente. Berlusconi, presidente, nuovo presidente. Sì, l'hanno detto a Berlusconi, ha detto di andare, che dopo poi si ne ha detto, non so mentre di chi che ha fatto, che ha fatto andare in Nora Mara con Monti, che ha fatto entrare a Monti, non è detto. Ah, infatti, se andiamo a andare a Dubai ci si ne deve andare, e buh. E manca un bergonia, va. E abbiamo cominciato a tapparsi d'ora, e se vogliamo, non si chiudeva. Noi siamo al numero 12, vero Gianmarì? Gianmarì, ah, riprendi i bacchi. Gianmarì sta mangiando. Vediamo se questo qui, su 23, ti ascolta. Ascolti tanto lì. Vedi, va un po' di calma. Ecco sì. Gli è arrivato già, dice che gli è arrivato stamattina, eppure ci va bene. È bella comunque la chiara, proprio, e anche forte. E l'altra settimana guardo a vedere cosa mi avanza e me lo ordino. E prima lascio arrivare e vedi com'è. Ciao, mi ha chiamato e quale? Non te l'ha detto la sigla? No, infatti sono 105 euro finché sono lì, 95 euro andane bene. Ma 105 euro già di 10 euro drup. Ma quello va a portare quando viene lì a luglio a portare. Sì, cata, oh lui! Oh vai, che sono già che fa bene. Aspetta che si fa luglio. Certo. Magari sarà l'altro 40 canali AMFM lo stesso. Non so come sia. Devo guardare e ma Tonino vuole sempre il garo e Tonino è sempre il garo, sono quelle 20-30 euro in più. Pensa un po', 40, 70 euro, 76 euro hai detto, no? Già 50 euro in più da Edu. Messi un altro quasi in essi. Due giorni non prendi caffè e ti rivolto paradiso. Ah, infatti. Andiamo e andiamo. Bravo. Ioia. No, la prima roba la punti la faccia. Io la domina più di tutta. Se uno dice questa è una faccia, se non è una faccia, non mi manca il biglietto. Se c'è ragione anche tu c'hai. Io c'ho qua quella con la basetta, c'ho quella da 1,5 metri o 1,20 metri mi pare che sia l'antenna. E io c'ho un buffo che sono la basetta. La calamita è 20 centimetri. Oh, io c'ho, mi pare che sia da 15, 10 o 15 centimetri la basetta. Ma però è 20 centimetri, c'è un buffo, io comunque c'ho quella lunga l'antenna lo stesso. Ma mi sa che io buro a Baidu. Quelle lunghe? Sì, quelle lunghe. Quelli sono quelli che portano i giornali, mi pare che sia di Gozo, di come si chiama, quello degli punti che c'ha i mobili, e Salvucci o come si chiama? Salvucci. Quello lì, di quello lì, che porta giornali. Sì, ma ti vedo a Gio, che è lunga, è un bel lunga, e non si buoni manco dagli aghi, se sì. Le tagli e rovini. No, ma sto dicendo, se li accorci, rovini le cose che non prendono più. Io adesso guardo a vedere se riesco a trovare. Ne ho trovato una a 19,90 e 80 centimetri è lunga con la basetta. È buono. È Tonino, non lo so. Sì, Tonino, c'è con la basetta e tutto deve venire 50 euro. Ce n'è quella che avevamo visto, costava 32 euro. E allora conviene questa 80 centimetri, 19,90, l'ho vista io. C'è un pezzettino di carica in mezzo, fatto con un pezzo di coso, c'è un affare di tipo una rondella, e poi c'è la carica della molla. Aspetta che prendo il tablet e te lo dico subito, aspetta. Aspetta un attimo che sto guardando, che qua davanti ce n'ho una, 27 e 27, 10 mm, no? No, questo... Questo no, adesso non me ne dà, non me ne sta dando. Non me ne... Ma lì non me ne dà la torre, no? La di più noi. Pensa Edo, ma signor Mari, pensa un po'. Ma sotto Zedo di Zebuscio, cosa sei uscito fuori sotto la pioggia e sei diventato più alto? Aspetta, mi si arriva, la voce mi sta arrivando forte, amplificata. Sì, danno, prima non da 10 mi davano me ne ben né più. Lascia la ragione, ma ritorno. Al suo canale ce la vedo, mi vedo, mi caricata, cioè si vede la carica in ottone, il filo d'ottone in mezzo con trasparente, poi già sali più su, c'ha un anello, una rondella, e appena più su c'è la, si vede la molla. È come quella della figlia che ti stavo dicendo io, della stessa famiglia devono essere. Solo che a me ti penso fatto la basetta, ma fa tutta la papardella di sotto. E la basetta, no. Poi ce n'è un'altra antenna CB veicolare con base magnetica che è 19,39 euro, però c'è la carica fatta a molla in mezzo, però non so come ti sia. Con le trappoline. Infatti, Gunveni chita da 32, Gunveni. E poi ce n'è un'altra, aspetta, Sunker, boh, come ti cazzo dice già, Sunker, Elite antenna radio CB con kit di montaggio, base magnetica 600 watt, 140 cm, 1,40 m. Io devo andare a prendere la signora, ci sentiamo dopo, eh? Tanto già è tutto qua. Ehi, ehi, vai pure, te lo prendo piatto, tanto la signora. E lo fai in strada, vai dritto, senza fermarti, ho un capucetto rosso. Andare bene, ok, ci sentiamo dopo, Bacchi. E a dopo, Tore, ciao. Ciao, Tore, ciao. Ciao, ciao. Ehi, ehi, allora. Allora, oggi lavorato hai? Thank you. pronto, pronto. Che era pronto questo? Nulla, Gian Maria si è sentato, deve essere si è affreggiato con Baracchino. No, siccome stavo mettendo a punto il Baracchino che era arrivato lì, stavo cercando di sistemarlo. Oh no, sì, lo facciamo, siamo giovani. Sto per un mese non ci abbracciamo. Sono allucinati spagnoli e anche i spagnoli arrivano fortissimo. A Marino lo senti tu, lo com'è? Ah, voi già ascolta Marino. Il problema è che quando c'è propagazione a volte è più forte di quello che c'è normale, capisco? Quindi a un certo punto bisogna come dire ciò come segnalino che ha. No, sto mangiando. Ah, è diventato prozio, è diventato Pomponio. Volevo fare un QTC a Bacchigio, ma ho capito che gli è arrivato già l'apparato a Gio Maria, così è. Vuole aggiornarci dai vecchi baracchini omologati. Va bene, rimango all'ascolto che sto per mangiare, sto ulteriormente mangiando qua, riprendete voi. E tu Pomponio, leva l'eco perché sei fastidioso. Sono costato un eco. Ti dà fastidio l'eco, mamma mia. E lui cosa capovolgo fa qua? Ok, no, aspetta che sta con l'eco. Avanti. A posto adesso? Avevo un inizio. Alcune tara. Alza da mangiare. Tutto che c'è un dopo. Hai sentito qua ci sta un regalo. Perché è quello che la cambia. Ma chi io? Ehi, ehi, ho capito qua. Capito, se non sapevo sempre del campo. Porca miseria. E dopo è nato con questo l'eco. Lecca, lecca, Antonello. Bene, signori, io ne approfitto del micro perché mi hanno dato una voce da sotto a scegliere. Dunque mi devo allontanare un pochino. Se poi se ne salgo, non lo so. Bene, vi saluto adesso. Ciao Luca, buona serata. Ciao Antonello, anche per te buona serata. Buona serata anche per Marino. Con questo ancora, anche Marco. Ciao Marco, buona serata, buon proseguimento di cena. Alle prossime, da qui si passa il QRD. Ciao ancora a tutti, buona, buona serata da Bottino. Marino vai. Ok, io ciao da me, è tutto, sono tu in casa. Via, ciao Bacchi, ci sentiamo, buon cuore e buon tutto alle prossime. Non ho capito la stazione? No, la verità non ho sentito niente ancora. E non so manco come ritracciarlo la verità. Quindi bisogna che mi andare per forza nel paese suo. Intacciando, andiamo a fare un giro, la verifica io. Con qualcuno che lo conosce. Luca, io mi piace al tacciotto. Questo giocando io negativo un tacciotto. Mi piace. Anche per la sua risposta al 100%. Ma sta mangiando, ma non fare male. Beh, quello sì, se non ascolti, come fai? No. C'è provocazione. Purtroppo così. Gira è più limpida questa di ondulazione di Marino che non l'altra con l'eco. Questa è la fagliette, la verità scritta, scorsa di questo omologato. E a me come ascolti Marco, sto usando il Saturn-Eco. Benissimo. Sai perché ti chiedo se puoi togliere l'eco, perché proprio personalmente non mi piace, fa voluto e fu. Io ce l'ho in qualche baracchino, ce l'avevo, ma non ho mai usato, solo per giocare pochi secondi, ma poi lo levavo. E vabbè, no, è assolutamente per quello, perché siccome l'ho comprato, non è che abbia pagato molto questo apparecchio qua, cioè 50 euro, quindi se ne valsa la pena più che altro, se ci va bene o ci va male, non lo so. Marco, adesso uno Carciuffi col pelo. Carciuffi col pelo? Io li conosco con le spile, ma col pelo mai. Avanti, prego, ciao Gianni. Dai, buonasera a tutti. Doppio rum da questa parte. Ciao, la buon'anima. Ciao Gianni, mi ascolti, sì. Ehi, ti ascolto, Luca, ti ascolto, anche te. Ah, ok, anche tu arrivi molto, forse è uno dei più forti, là. A parte, vabbè, del corso, Marchisio, arrivi poi un pochino. Va pure, là. Da trovo molto, andrò a casa. Perché è un po' brutto, io già per ruolo. Sì, è tempo che ancora non si sta finito tutto. Adesso la pioggia può anche finire. Aspetta per un po', dai, scambio le bacini, sì, stanno colmando tutto a livello sì. Ma è stato anche traboccato. Vabbè che se non si come fa ad andare a pigliarsi la gioia. No, guarda, se... Adesso vediamo un po'. Guardate che quando va rimasti, secondo come va, guarda, fanno un po' di domani. Perché quelle che ho cucinato da poco erano non buone, ho detto di quelle grasse, belle, buone, guarda, erano un piccolo. Sì, già l'ho vista la foto. Ma quel posto che ti hai detto io non ci sei mai andato, perché? No, mai. Ma mi hanno portato, dai, mi sono a mancare. Ma quella è quella di Cucuy, qua che non c'è più. Sì, questo l'ho trovato solo l'umano. Cucuy c'è, poi tu dice più, più. Per arrivare in giù che c'è il calcio, no? Il calcio è quello giusto. Fai questo, vabbè, adesso non so come si chiama la zona. Comunque io c'è la lavavista, vai lì dentro, poi fai con la bianca, poi c'è un cancello, sta di volta cancello, ti fanno pulita da piedi. E io questo è il blu ancora. Ne ho provato 12 una volta, cosa che non mi era mai successo, 12 bacconi una volta, c'è una cosa che mi dirà che tanto si fa, che c'è. Questo baracchino calcato, sono brutto, dai. Che cosa sei usato come baracchino? Pubblico. No, vabbè, ma quello è quello famoso che ho preso io, quello con le... anche l'eco eccetera eccetera. No? Ah sì sì, però che cazzo io, quello che ho fatto di fare. Sì sì sì, si può fumare a questo. Cavagana. Va bene, dai, andiamo avanti. Buonasera a tutti, scusate se ho monopolizzato per un 3 minuti. Sta bollendo dietro, sono così stazionati. Ma che antenna hai messo? Stava niente, il cappello cicchino. E come è questo stazionario? Non riesco a buttarlo giù, sono andata attaccata al corso, Allora sai cosa ti do? Io cercherò più di 5.000 fino a scuola che ci ha pulito, ma tutto 2.000 euro di stazionario e noi anche per lo stesso attacco della PNC. Si è fatto, non è problema di massa. Se è sul primo cipone massa non si sente. Magari tu che fa... Ma se non metti sulla ventiera invece se... Sì, ma che freddo già, toccate la porta aperta, la buscavo che arriva giusto il giusto. E comunque si può fare la prova, se va bene dalla... la... il 2001 è un'antenna, una signora antenna, e capiti come la mando, no? Io con la mando, però arrivo con lo stesso segnale che sono stato il 2001. E già mi ricordo, ma è rimasto qualcuno? Non c'è più scappato perché sono entrato io, dai, non te ne parlo, vai, ciao. Io l'ho bocca piena, ciao già. E che cosa c'hai in bocca? Una cosa lunga. La banana. No, è una specie di pagnotella un po' allungata. Ma lo prendo sottilette, ci ho messo un formaggino e mortadella. Tanto qua si accetta tutto. Bene, entra- ritratto dopo tanto, che non ti sentivo da un po'. Oh, siamo un po'... Caspita, c'è la gente qua. Ci sei ancora? Marino, ci sei? Al Calvino ci hanno fatto lavorare in mezza giornata e ci hanno fatto lavorare di mattina solo, quindi è per quello che sono entrato. Se no io ci chiudo di sera sempre dalle 2 sino alle 9, quindi è normale che non possa entrare a 7. Ci è rimasto un Pugno, sì. Oh, Pugno va e viene, è entrato, ha fatto fuggire tutti, ha fatto fuggire. Comunque abbiamo appurato, mo già, e quella sola è vera, che quei baracchinetti con la vecchia omologazione, no, punto 8 di CSR eccetera eccetera, non sarebbero proprio a norma CE, cioè comprare a norma CE, come il 48 plus multi, quello c'è scritto CE0341, probabilmente un numero simile, qua c'è 0341 CE. Sì, anche nel mio, e io, ma speravo che chiudessero un occhio, ma boh. È così adesso. A proposito, Natale, ci sei all'ascolto? Ma perché ha parlato già Natale? E io. Un omologatissimo, omologatissimo. Ma un Polmar ZX40. Io li volevo dare anch'io, però a prestare, ma è mia concessione. Io ho detto no, se lo puoi magari io non controllo e capisco, non sei più qualcosa, non facevi nulla, però gliel'avrei prestato io, ma è concessione. Anche quello è prestato, te l'ho dato io. Ah, vabbè, magari tu non le metti in concessione, come invece io ho stato in concessione con un particolare. No, già, perché nel 2010 quando sono entrato, questi nuovi fogli, questa nuova cosa nel viale della scomposta, non deve indicare né numero di... né baracchino, né numero di matricola, nulla, nulla. Devi scrivere, sì, solo... devi segnare con la crocetta A apparati portatili, sì, A apparati veicolari, sì, e basta, niente numero, non devi dare nulla a me ormai. Magari chi c'era prima, sai, l'ha dato perché c'è stata la transizione dalla vecchia alla nuova concessione, però forse oggi non è entrato, non lo so, forse teme di disturbare, sai, perché lui può essere in regola mille volte, ma ci sono i soliti che hanno l'antenna fradicia e quindi, vabbè, almeno può ascoltare un po', ma già è entrato ieri. Ma l'antenna quindi l'hanno controllata? Ai vicini no, credo che si siano limitati ormai di dominio pubblico e lo sanno tutti. Credo che vedendo che il suo non era norma CE si siano limitati a sequestrarlo, a fare la multa di 60 euro e basta. Solo che Gianfranco consigliava, lui dice ha diritto a modulare, basta che ci abbia il baracchino a norma, completamente a norma, e deve modulare mattina e sera, poi se hanno problemi quelli che chiamano di nuovo, così gli fanno la multa a loro, però, capito? A loro, perché Natalino da lui non disturba, capito? Natalino l'impianto antenna ce l'ha fatto bene dal baracchino, capito? Certo, è bassa l'antenna, niente, quello è vero, non c'è da dire, ci vorrebbe un'autoscala, alzarla di 3-4 metri, ma non basterebbe nemmeno, perché se c'è gente con impianto antenna compromesso non c'è nulla da fare, prenderanno sempre disturbi, anche con un vatemi prenderanno disturbi. Vediamo se c'è, Natalino, se ci sei, batti un colpo. Oggi no. Pomponio, se sei entrato? Pomponio è entrato, ha fatto a Buluzzo, hanno chiuso tutti. E ce l'ha andato. Guarda, poi c'erano delle poche volte che a Pomponio non ci sono, non sentito uscire il vento. Eia, senza eco è veramente boh, è limpida la modulazione. Infatti ho detto tenili Lugonto mi. Tanto Pomponi è vulnerabile, dice che lui ha il diploma dell'INAP, che è tecnico e che non gli fanno niente a lui. La prima cosa l'INAP non è dato il diploma, gli danno una qualifica, ma c'è un corso che gli dà una qualifica in 3 anni, ho fatto anche io il corso. Ma peggio, se lui si dichiara tecnico li manda alla finanza a vedere se è in regola come tecnico, capito? Che ha giusto apparati eccetera. Meglio tacere. No, su 10 no, meno male ci hanno spostati qua un po' en passant. Poi è entrato Claudio ieri, ogni tanto torna dalla campagna, fine serata, quindi entra a salutare anche qui. Magari c'è l'ascolto, Claudio ci sei? Io sono qua, ma rimando l'ascolto. Buonasera a tutti. Sono argomenti che mi stanno prendendo male, quindi è meglio che rimanga l'ascolto. Quando mai? Un pediatra, c'è un 3D che va a corto, un pediatra che fa vedere sempre le stesse cose. Divertite però. Ciao, doppio Ruth. Sì, ciao, grazie. Mi sentite, va. Importante. E io purtroppo mi hanno cambiato l'orario, sono passato dalle 2 alle 9, quindi la sera non mi sono entrato. Mi dispiace perché ci penso ogni tanto, ma purtroppo è così, il lavoro è lavoro. Prima lavoro, poi tutto il resto, Gianni, a tutti lì. Ciao, ci sentiamo alle prossime, divertitevi. Ciao, qua, siamo qua. Avanti. Marco, di nuovo. Adesso siamo solo noi. Io ho provato a entrare tante volte su 10, poi no, non è sicuramente, poi ci sono passati in canale, adesso ho provato a tirare. E spagnoli non sentivo. Sì, c'è un macello di propagazione. Oggi è veramente un macello, nonostante il tempo brutto, da noi c'è un po' di tutto, FM, bande laterali, ma addirittura qua qualcuno in FM quasi copriva, come si chiama? Va, Ferito, Marte, ma non mi viene il nome, quasi me lo copriva, pensa. Ciao Claudio, se sei in ascolto, dai. Forse Natalino sta mangiando, per quello non è rientrato, dai. Cioè non ha... Poi a Gio Maria gli è arrivato un apparecchietto omologato carino, a Norma c'è un Presidente Perry, io ho detto no, sarà Presidente Harry, no, Perry, mi hanno fatto uno nuovo, display multicolore, molto piccolo, e hanno detto che c'è bene di radio, purtroppo io non c'ero, ero dormito, come si dice a Sassari, se non l'avrei sentito, ma già lo sentirò i giorni a venire, dai. Sì, infatti, molto, ci stanno coprendo le bande laterali, propagazione. Vado adesso. Adesso è una sagupa, però saldavo bene, ma non lo posso fare più, saldavo bene, tanto mi sa. Lo so, ma oggi è una giornata particolare, dai. Sono segnali forti. Cosa ti stavo dicendo già? Mamma, siccome sta prendendo una cosa per dormire, che proprio non rispondeva, sembrava morta. Nel primo pomeriggio, verso le 3, mi sono preparato un piatto a base di fagioli con un sughetto fatto non so come, un piatto pronto, buono. Poi mi sono mangiato cosa? Una piccola scatoletta di tonno per integrare. Mi metto a letto, bello, mi viene il sonno. Mi sono svegliato alle 7:18:40, 7:20. Ma ho fatto tanti di quei sogni, ho sognato roba fantastica, roba, non lo so, situazioni, gente. I miei sogni sono sempre molto creativi. E non mi drogo, se no ci sei ancora. Ma sto uscendo. Ora. Beh, ciao a tutti, ciao. Un attimo al telefono, va. Prima sei arrivato tu, hai fatto scappare tutti e adesso sei rientrato, ah? No, assolutamente, no. Peccato sono uscito fuori. Stavate parlando, dopodiché sono rientrato. Sì, mi ha detto mamma che quando mi sono addormentato nel pomeriggio ho fatto un acquaccione. Ciu-ciu. Io lo so anch'io, se per questo, ci mancherebbe. A parte quello di stamattina. Sì, yeah. Caspita, per esempio di pomeriggio mi viene quel bel sonno riposante, no, sonno naturale, di notte non c'è verso, di notte c'ho questa specie di, devo prendere qualcosa per dormire, non lo so, una cosa psicologica deve essere, meglio pensarci. Sei di quella dell'asino, come già mi ha detto, subito. C'era San Gavino tra oggi e ieri, ma giornata brutta, mi dispiace, non siamo andati, di solito andiamo tutti gli anni a San Gavino, a Pro Torres, a vederci le bancarelle, a prenderci un panino, però tra ieri e oggi, ieri non lo sapevamo manco che coincideva con la cavalcata e oggi è tutto pioggia, quindi pazienza. Visto, capita, a volte capita. Beh Antonio, lasciami iniziare il telegiornale, dai, ci sentiamo domani, un po' tardi adesso, ok? O quando capita. Adesso dovevo andare a Ocieri domani, no? Per guasto tecnico mi hanno rinviato al 31 di questo mese. Io non voglio stare con le bende sugli occhi in estate, no, se mi devo operare. Fai bene, ma tanto stressare, quale problema? Vabbè, già ne riparliamo quando ci vediamo in verticale, dai. Ok, ciao Antonio, ciao, buonasera. D'accordo, ciao, ci vediamo domani al limite, dai. Ok.